bene, siamo in diretta in modalità più inquietante del solito. Modalità bestemmia. Che la tecnologia ancora una volta ci ha abbandonato, mi ha abbandonato. E facciamo veramente cagare, ma siamo comunque sempre Typhus and Dragons. E ci possiamo cagare più del solito. Possiamo cagare più del solito. Siamo sempre e siamo sempre qua con la maledizione di Kat, episodio 21. E le bestemmie diverse, episodio 1. Le bestemmie le ho tirate prima. È sempre a livello 5. Sì, esatto, sottolineiamo. 21 vittorie, grandi vittorie. No, 5 però. Sì, ci vedete ancora più sfocati del solito. Niente, va bene, vi passo la parola con me a De Bologna, nel gioco che abbiamo Stefano Gamberoni, Giulio Bosi, Francesco Racidiacono e il Master. Francesco? Colui. Francesco, no. Abbiamo già 6 commenti. Salutiamo a parte tutti mia cugina che vuole essere invitata alla prossima puntata. Sì, se può essere invitata. È l'inquadratura fortunata. Magari colpisce, se funziona la telecamera meglio. E salutiamo ovviamente invece Edoardo Saladini, che ha dei problemi tecnici, ma di diversa natura. Però se posso dirlo, meno male che non c'è, perché sennò sigla, forse eri ancora più incasinato tu. Era assurdo. Forse eri ancora... la sala non mi cambiava niente, perché ormai non, da un po' che non no faccio... però sala sarebbe sentito tutte le bestemmie, avrebbe riso. Sì, è vero. Avrebbe sala, ti sei segni, perso un momento bello, come dato dei segni di vita. Esatto, ma lui ne ha già vissuti altri, quindi si ricorda. Vabbè, tutto molto bello. Allora, va bene, sigla. No, sigla non ero preparato. Non te l'ho mandato. Sì, lo so, però vabbè, noi giochiamo questo che guarda. Ah, lo sai tu, cioè, lo sono io, ok. No, ok. Cioè già solo. Aspetta, ti accendo il coso. No, aspetta. Sì, acceso. Vedo la luce blu, scusa. Deve partire. Va bene. Chi è che fa riassunto? Un applauso per la stagione. Ti dovresti cantare. Pagare io oro per vedere. Tra l'altro sei con un prezzo, cioè è geniale tu. Un treno che mi passa dentro senza stazione. Bene, ci siamo lasciati l'ultima volta in mezzo ad un combattimento. Per la gioia dei presenti inizieremo subito. Sì, beh, il riassunto della scorsa puntata è molto semplice. Io ho accettato di sottopormi alle operazioni dell'abate per salvare lo sfigato lì, il figlio del borgomastro. Gli altri sono andati alla vigna finalmente e hanno iniziato lo scontro, che sono dei druidi. Cioè, non è che siamo prima, ci sono incontrati con Ritter. No, dicevo già alla vigna, ci siamo intrufolati. Già. Ci siamo intrufolati dentro la vigna, riuscendo a evitare gli acquisti umanoidi. Siamo accidentati, volevamo nasconderci all'interno, ma siamo stati attaccati da tanti olive, arbusti, non so che nome hanno, in italiano sono arbusti maligni. Arbusti maligni. No. E insieme a Rega, sta frociata, si può chiudere sta merda, cos'è? Ma hai ascoltato che canzone è? No, però si capisce che è il mio corpo che cambia, di Piero Pelù. Sai cosa sta per affrontare Giulio? Era per quello, il mio corpo che cambia. Quando finiamo la... Ma dove vivi? Su che pianeta vivi? Dai, me la ricordo io questa. Che non ascoltavo la musica perché no. Ragazzi, voi eravate grandi all'epoca. Io non mi sa che avevo iniziato, ero appena nato, qualche anno era. No, già 2000. Quanti anni avevate voi? Comunque insieme a questi. No, vedi, parla del Gambia. Ed è 99? Bravo. Tu avevi? No, non è vero, l'album si chiama 99. Cos'è? Ah, perché era l'album 99 live, in realtà data di uscita 2005. Tu quanti ne avevi? 15. Io no. Ma dipende che mese uscì. Che mese uscì? Cercalo. Comunque Spider-Man è carino. Comunque Vez, sai che ti sei salvato da tutte le mie scoregge che ho fatto al cinema, Marco? Io in un film di due ore avrò fatto come minimo 15 scoregge. Ginny, se vuoi sentire la voce di Argin, è questo che stiamo parlando. È l'unica, diciamo così, nessuno ha sentito niente, ma l'unica un po' molesta, io poi ho sventato. Ah, sei scoreggiato al cinema, appunto. Ho fatto così col ventaglio, da colpire tipo gialle e l'amica gialle. Che non sento, cioè ormai... Io ho perso l'olfatto. Sì. Vediamo la gente che si contorceva. Sì, è vero, rega. Cioè, nel senso, io credo di avere. Del 99, comunque, confermo. Del 99. 22 gennaio. Non anch'io avevo 15 anni. Avevo ancora 14 anni. No, 99 non è. È 9 anni. era 2005. Di quelli che conosciamo, di fatto, solo Ema aveva già compiuto. Eva. Vez. Tu vai, scusami, hai sempre fatto gli anni a maggio tu? Ma dipende in realtà. Nel 99 secondo me li hai fatti a gennaio. Comunque dicevo, insieme agli arbusti maligni all'interno della vigna c'era una Luna. Non lo so, io ho visto una donna lanciava Thunderwave, quindi. Ah, è vero che lanciava Thunderwave, giusto, l'avevo dimenticato. Thunderwave non è il druido. È anche il druido. Però, no, poi il Tuir che è un incantatore vestito di pelle. Io ho Thunderwave, no. Quello è apposta per te. Se lo scegli, sì. Se lo prepari, sì. Il druido Thunderwave. Ah, ma del terzo livello. No, è tipo del primo. Un po' più indietro per il fulmine. No, non il fulmine, Thunderwave. Che c'è? Quello che fa l'esplosione intorno a te che scava. Cosa vuol dire cos'è Thunderwave? Esatto, il nostro gruppo si chiama su WhatsApp si chiama Thunderwave. Livello 1 è il cantesimo. Boh, è basso tipo, cioè, lo può lanciare. È il classico incantesimo che faceva Salla. L'ha fatto l'altra volta. Che faceva Salla per ucciderci. Ma non l'ha usato proprio l'altra volta Salla? O la volta prima? Al massimo. No, Salla non ce l'ha in questa campagna, non ce l'ha. Scusami. Tu le. No, io non so mai un cazzo perché te lo segui un animale. Io uso solo produrre fiamma. Ah no, forse semplicemente mi ricordo la bestia. È una frittata. No, sono delle patate. Ma tu non mangi niente. No, no, mi dite cosa c'è. Comunque sai che c'è a te. Mi sei mangiato un sacco di popcorn. Ah, ok, c'è anche quello. Perché i popcorn si possono. Sono aria, fritto. I corni in realtà sono un avessero quel cazzo di burro che usa. Non sarebbero stramali di questo punto. Ma io butto più fatto. Vez, ma tu che sei un esperto, questi popcorn, il burro, dico, boh, si acci. Cioè, non so cosa dire, dove no, perché io, quelli che hanno il burro, di solito li sento. Cioè, ma sono chi ha, burrosi, ma chi li ha ordinati? Non erano troppo burrosi. Chi li ha ordinati, Alba? Ovviamente li ho ordinati io. Sì, hai perso un'occasione. Mi ha preso un... è arrivato che è entrata una confezione di popcorn con sotto Vez, piccolino. Ah, il mio chiedo. Perché non li hai fatti ordinare a lui? Ti chiedo a prendere i biglietti, verso la prima un'altra fila, ci hanno spaccato tutto il cinema. Giulio, tu ci sei vero a la roba di classe? Sì, sì. Non lo so. No, dai, vieni. Vale. Sì, perché questa non è come l'altra volta. Dicono che si mangi bene, nonna Rosa. Sì, non ho voglia di mangiare fuori. Già sono non devo fare dei regali di laurea che non voglio. Ma no, ma stiamo dentro, mi sa. Avete andato fuori. Se qualcuno mi sta ascoltando non è vero. Dai, vieni, Giulio. Hai detto che ho detto che ti convincevo. Ah, sta proverso? No. Vabbè, comunque, Master, abbiamo sconfitto... Tanto ancora una settimana e mezzo. Gli arbusti maligni che abbiamo trovato nella stanza delle enormi botti. Ho 10 giorni per pensarci. E avete visto che il druido aveva con sé. L'altro perché tu sei l'unico che non si toglie le scarpe quando entra. Tutti senza scarpe siete? Io non abbiamo visto, il master ha detto, abbiamo visto che il druido aveva con sé, non mi ricordo. Io non c'ero. Cioè, ok, tecnicamente ero qua. Non c'eri, tu che non c'eri è impossibile. E il master, il druido non era una druida. Sì, ed è morto. Quindi aveva due tente. Esatto, sì, noi abbiamo visto che aveva qualcosa. Aveva in mano ah! Quando siete entrati. Ero il primo ad essere entrato. Un fallo. Ma abbiamo visto che nelle botti ci sono gli arbusti invece del vino, del buon vino. Vino! Non erano tutti in una. No, non mi ricordo quattro. Io cosa avessi in mano. Io mi ricordo qualcosa di molto volgare. Io mi ricordo. Sì, quattro ragazzi con la chitarra. Un pianoforte sulla spalla. Stai riguardando la diretta dell'altra volta. Ugo l'ha fatto per quella di giocatori, questo interesse. Ah sì sì, io adesso mi ricordo. Prima è stato Papu, ma l'hanno fatto anche con Cristiano Ronaldo. Con ragazzi con prima la è stato Papu, chitarra. Papu che ha messo sui social da lì. E un pianoforte sulla chitarra. Beh, sono buonissimi. Aveva corsa delle fiaschette. Ah, le fiaschette! Io pensavo intendessi qualcosa di altro, cioè, quello è ovvio. Ah, cose. Sarà il veleno. Il veleno è per Cuzco. No, allora, se non hai visto il figlio dell'imperatore dovresti ammazzarti, cambiare vita e rinascere. Ok, no. Vabbè, tanto tra il massimo 11 anni esatto. Bene. Vabbè, ma tu sei giovane, te lo ricordi ancora? 11. Non hai detto che non arriverai a 40. Ho finito svezzamento. Lui è giovane, ce lo ricordo ancora. E poi no, io ti auguro di arrivare anche a cosa bella, sei tu che sai con chi devi arrivare. Delle fiaschette con Salvo che aveva buttato. No, vabbè, se voglio giocare con te, Dan. Ah, no, giusto, vantaggio. Entrando lui l'aveva proprio vista mentre svuotava. Ora mi aveva tornato lì. Potremmo fare comunque la foto con FaceApp. Cioè, giocheremo a 90 anni noi con l'Alzheimer. Mi fai le stesse cose di scemo. Ti tira per colpire, ho già tirato. Non è vero. Hai fatto una volta che ho fatto bene. Tra l'altro, Parkinson anche. Sono un'altra di capo, che devi farla sembrare. Due. No, però... Dove in realtà il combattimento è finito, cioè c'è diverse cose. Per adesso è finito. Dai, io fido, cioè, è finito il primo combattimento. Ma il secondo combattimento. Mi stanno chiamando, scusate. Sì, bravo. Comodo. Comodo, no, comodo. Ma c'è una cosa che odio sono integratori. Credo che si dica comodo. Stupida, ma a me non piacciono gli agrumi. Tutti li fanno all'arancia, che scassa il mondo. Ci aspetta le 10. Partiremo alle 8:30. Yes. Sappiate, amici telespettatori, che si parte alle 10. Esatto. Okay, tutti alle 10. Ma streaming spettatori. Dove andiamo alle 10, Catta? A un funerale. Non potevi saperlo. Bella, però dopo la risposta, la risata di la domanda è la domanda. Cioè, non avendo fatto, non essendo stupido, la persona di merda, a un funerale. Mi dispiace, Cat. Aspetta di finire di ridere prima di dirlo, no, però. Mi dispiace. No, già avete puntato un po'. Poi in diretta, Cat, hai ragione. Ma di chi scusa? Vabbè, ecco. Quella di mia nonna. Infierisci? Vabbè. Vabbè, se mi rispondeva tipo un mio amico, era quel giorno. Sì, capito. Quanti anni io avrei era? Evitato la domanda. Sì, dai. Vabbè, dai, hai vissuto la sua vita. Sì, sì, no. Era... Ah, sì, hai riso anche lui. Sì, era previsto ormai. C'aveva l'appuntamento. Non aveva l'appuntamento, però. Adesso mi dispiace, però non mi dispiace. Ah, no, guarda! Era questione di tempo. Vabbè, se è per tutti. Ma se per tutti, però. Vabbè, chi più chi meno. Però. No, è previsto come per mezzo. Esatto. Vabbè. Ok. Cos'è il prossimo sulla lista? Comunque, condoglianze. Grazie. Sì, no, vabbè, nel senso, cioè, la dinamica è, cioè, non volevo essere indelicato. No, la cosa è stata molto indelicata, però in realtà la dinamica era oggettivamente. La dinamica sì, è molto divertente. Cioè, un comico di carta. Posso ricordare una cosa? Spesso usiamo la parola amici. Come potevo saperlo? Sì. E poi, scusa, abbiamo riso, quindi. In un momento sono lì che fanno compagnia nei giochi a dungeon e nell'altro ridono della morte del tuo amico. No! Parenti. No, era per dire. No, sì, effettivamente è esattamente. Vabbè, non è che ridiamo della morte del parente. Quando io fai ridiamo di lui che va a tirare. No. Accendono la risata. Anzi, aggiungo con quasi soffocamento giusto in questo caso. Abbiamo riso della situazione che si è creata. Che è diversa. Ok. Comunque... Torniamo a cose allegre. Sono delle scorreggie, non so se sono questi gratori scaduti. Falle tutte sì, lì e che restino lì. Puoi sparare tipo la ventola forte. Poi sono di morte. Lo puoi dire? Grazie. Fallo assorbire, che sono un parso scemo. In questo semino abbiamo qualcosa da buttare. Esatto. Ecco, tipo quel ciottolino. Sì, no. Il ciottolino. Adesso lì. Ah, parla di quel ciottolino. Basta per... Che boh, che bora. La senti? È un kebab? Sì, sì, la senti di più. Allora, è un kebab quello? Cazzo, sente tutto l'odore del cibo. Sì. E quello che mangiate prima ricordate come si chiama? Non è falafel. Cos'erano? Come l'hanno chiamato nel menù? Adesso arriva tutto l'odore del kebab di qua. Ho fame, allo chicci, tipo. Ragazzi, fai arrivare tutto l'odore del kebab. Usate i ciccioli, Regi. Ma sono con una scelta che è finita. Esatto, quelle le parti importanti. A me sai che i ciccioli non piacciono. Tra le smangiucchiare così fuori dai pasti sono invece le tagli. Cioè ti piacciono? Tipo le patatine, ne mangi uno, ne mangi due o tre. E ok. Allora. Vai. Voi siete qui. Tutto per la pane. Se vuol dire che mangiate le cose quando non facevi parte. La puntata inizia con. Ah, tanto io posso perché sto continuando di dimagrire. La puntata inizia con i quattro sventurati che hanno liberato la stanza coi vasconi e adesso se eravate vi eravate arrampicati fino qua sopra dove c'era la druida e da qua sono usciti tutti gli arbusti che vi hanno assaltato e li avete spazzati via, esatto. E, la pianta più o meno la sapete perché i vostri amici fuori ve l'hanno descritta. Ah, cioè della casa. Come è fatta la casa. E poi sapete che anche il Marshall. E ve l'hanno stata anche il Marshall. È stampata. Sapete che appunto qui ci sono due scale a chiocciola che collegano i piani. Quindi per la precisione effettivamente voi siete qua su questa scala. Che collega il soppalco con le vascone. Un attimo, una volta ci sono la druida e stuprati gli arbusti non ci abbiamo fatto niente. Questa stanza no, però sappiamo che i druidi sono voi tre, siete, sapete che sono tre. Voi siete qua in fatto W9 e c'è anche un altro elemento in questa. Oltre agli arbusti e ai druidi c'era lo stormo. Di corvi. Di corvi. Ma i corvi sono l'altro. I corvi però quando sono usciti gli arbusti li hanno attaccati e ne hanno smembrato. Sì, perché qualcuno. Prima di entrare addirittura hanno dato a noi anche un nostro corvo personale ad ognuno. Esatto. Vedete che questa quindi gente. Quindi adesso è io molto ho corvo e scimmia. Dai, corvo. Uno di noi è un corvo. Ne avevate due corvi. Okay. No, ce ne aveva detto uno, mi pare proprio. Sono abbastanza, però di fatto adesso ne avete quanti volete, sì. Perché c'è uno stormo. Sì, ma sono non fedeli a noi che decidiamo che si muovono come vogliono noi, no? Si muovono come vogliono loro. Ma quello che ci hanno affidato invece è nostro. Cioè, compagno. Si muovono come vuole il basso. Ve l'aveva dato dicendo, se vi serve, lui, mentre vi avvicinavate, svolacchiava sopra di voi e vi avvisava. Quindi se... non posso avere un corvo sulla spalla e chiamarlo Michael. Puoi avere un corvo sulla spalla e chiamarlo come? Michael. Cioè, Frank e Michael. Va bene. Come si chiama? Michael, no? Eh? Michael. Sì. Sono i personaggi di The Punisher nella prima stagione. Frank Castle, Micro sì. È il data analyst. Sì, sì, sì. Frank è la scimmia, Micro è il corvo. Hai un corvo che si chiama Mike. Che chiami, ma non è Micro poi. Non Micro poi. Beh, corvesco, chissà come si chiama, ma tu puoi chiamarlo come ti pare. Esatto. Fortunato dice. Cioè, perché è data analyst. Fortunatore. Esatto. In questa stanza, appunto, vi dicevo ci sono quattro. Quello alla cui moglie la voleva dare. Le quattro taniche di fermentazione, una vuota, dalla quale sono usciti gli arbusti che vi hanno assaltato. E un codice. Ah no, baciate. Qui c'è una porta scorrevole a doppia ante che porta al portico che sta fuori ed è chiusa con una catena dall'interno. Quando si è ricordato delle telecamere. Vabbè. La porta che porta a... La porta che porta. Conduce. Sì. Spudafuoco. Allora... il condotto che conduce o per forza dobbiamo andare sopra direi o sotto e anche questa qui è chiusa però vabbè no nel che... senso dritti e giù no vabbè stai esploriamo allora qua non ha senso stesso, questo no? Allora come ci arrivate da lì da sotto no qua c'è la e noi adesso perché diceva noi voi siamo qua, siamo qua a metà perché siamo qua. Ah, non siamo qua. Perché siamo sul suo palco. Ah, scusa, questo è il primo. Vedi che è tratteggiato qua. No, okay. Questo è il piano terra. Però vedi che è tratteggiato, perché questo è un soppalco della sì, stanza. Sì, sì, però il soppalco, sì, però quindi, diciamo. Noi eravamo sul soppalco, però. Quindi per entrare è all'altezza del piano terra, del primo piano. Da qui scendete le scale. Noi siamo al primo piano, di fatto. E fate così. Io andrei a vedere cosa c'è nelle stanze al primo piano. Ok, poi magari vogliamo banalmente ascoltare un attimo. O andiamo a vedere su. Fare un ascoltare intanto per capire no, ascoltare. Tanto non è di legno, quindi se qualcuno non cammina può. Lo posso. Cioè gracchiare le corde. Svantaggio. 15. Svantaggio. Ma io dico Michael, fagli stare zitti. Senti che stanno bussando dalla porta che avete sbarrato. Toc toc. E convenientemente Race si sbarrato. Offre per andare a. Aspetta, abbiamo sbarrato tenerla. La porta. Era da sì. Cui siete entrati. Ah, è vero, sì, scusami. È vero per non far entrare. E Race dice ci penso io e va a tenere chiusa la porta. Ma bussano tipo capiamo che possono essere. Possono essere gli arbusti. Perché dato che non è qua, almeno gli faccio fare qualcosa, così non ci abbiamo tempo. Diciamo, che possono essere gli arbusti che ci hanno inseguito. Ah sì, no, non i vostri alleati. Che dici. No, non umani. No, non umani. Mm. Ok, quel lato allora. Abbiamo lui a guardia. Il corvo. Scendete al primo piano. E quindi entri lì dove ci sono quelle botti, giusto? Esatto. Allora, W4 colpito è il magazzino delle botti. Questa stanza contiene 13 botte. Botte. Quante? 13. 13 botte? 13 botte? 13 pietre. Ah, si, apprezzo il tuo piedino, cioè, però. Cioè, no. Poi ho le scarpe, non bene le scarpe. E col piede non va bene. Ho capito, io ho le gambe più lunghe delle tue, ma non è che ti invado. Arrivato gamba lunga. Com'è competitivo? Allora, cosa devo fare? Devo stare così? Tutte le gambe, tutte e tre le ho più lunghe. Io voglio stare così. Così. Basta che le incrociamo e non mi. Nell'angolino c'è una scala chiocciola che porta qua su al piano superiore. Non c'è nessuno. Qui non c'è, oltre alle 13 botti, non c'è nessuno. Allora, memore. Lo facciano di sicuro. Memore di film che mi piacciono molto. Controlliamo che non ci sia qualcuno dentro. C'è no, però, seriamente, gli arbusti erano dentro la botte grande. Chiudiamo le botti. Allora, dentro la botte piccola si sa che c'è l'arbusto batto, buono. No, batto, batto su un paio di botti e sento che rumore fa. Sono vuote. Quindi non c'è il vino. I quelle due che hai fatto. Ma sono 13. Sono tipo divise, metà di qua, metà di là. Vai, apriamo queste botti. Ah, sono invece proprio così. Iniziativa. Poi ne apro una. È vuota. Ne apro due. Sono vuote. Va bene, basta. E non c'è altro qua. No, c'è la scala chiocciola che porta su. E c'è anche un'altra porta. Un'altra porta. Esatto. Che va a W3. Ok, apriamo la porta. Entrate nel. Basta. Nella. Minchia, zio. Officina falegnamento. Ma integratori, porca puttana. Oh, la guarda è quella buona. Guarda quanti si con soddisfazione. Ti arriva? Voglio adesso chiedere il feedback. Sono scaduto. Ma scusa, sta sparando in là, vai. Non lo so. A questo punto è andato sparando in là, quindi gira. Ma voi non è arrivata? Per adesso no. Che egoista. No, tienta io. In questa stanza c'è l'officina o barra falegnameria dove vengono costruite le botti. E qua c'è la porta che è sbarrata da lì. I giacchi nuovi erano lo zenzero. Ci sono vari strumenti, martelli, seghe, chiodi. Tutto il necessario per costruire delle botti. Non dire parlarci, spingo solo 10. Prendo un martello. Perception, catta, voglio vedere se non trovo qualche stronzo. Io prendo se c'è un piede di porco o qualcosa del genere che possa eventualmente. Sono. Anzi, no, ci sono le strisce di ferro. Guarda e piangi, boom! Oppure delle tipo tenaglie, qualcosa del genere c'è per tagliare una catena eventualmente. Per tagliare una catena? Per aprire una catena, se dovesse servire. Non credo ci fossero le tronchine. Perché proprio. No, infatti non so cosa usavano per spezzare. Beh, abbiamo fascia. Le nostre armi. Vabbè, qualcosa magari di più efficace e più veloce. Sei un barbaro con un'ascia. Le braccia. No, là c'è un martello da guerra. ho capito, non penso solo a me. No, in teoria il martello da guerra è più efficace. Sì, io se capita a te. dice Sheo, anzi Garrosh. Garrosh. Magari anche meno rumorosamente lo facevano di tenare. Se capita a me cosa? Se siamo in gruppo, ti passo quello e fai tu. No, perché io adesso andrei qui ad aprire. Per farci una via di fuga comoda. Sheo è tardi, devi andare. A due ante, no, senza però dover smartellare e fare troppo rumore. La mia idea era quella. Cioè, se ci fossi io. Pronto, Giale? È possibile. Dica. Ti basta prendere il tuo possente maschera da guerra, un chiodo. Anche, sì, anche. Insomma, qualcosa per spezzare la catena senza con dover smartellare tutta la porta. Saluta Giale. Saluta. Io e te siamo sempre quelli inutili. Hai detto che gli sfondiamo la pizzeria se non ci prendo. Non penso di conoscere. Non mangiamo a casa di me, Linda? No. Pensando dove andare dopo. Ah, ok, va bene. Andiamo su, no? Aspetta, c'è ancora della roba. No, quello c'è un cazzo. Ah, vabbè, allora sì. Vabbè, ciao. Andiamo bene. Vabbè, c'è il coso sopra. Questo. Ma ce l'hanno un bagno, se non deve pisciare lì. Andare a quello? Vabbè, facciamo tutto il primo piano, così siamo tranquilli. Dai, okay. Vai. Quindi andate qui? Sì. Sì, ho capito, ragazzi. Apro questa catena, la rompo. No. Vabbè, se va bene. Se serve una via di fuga veloce, no. No, riesci a indagare su questa cosa? Ma rischia anche entrare gli altri. Cioè, così. Ma sono su questo. Dai. Ah, beh, qui. Vabbè, comunque me lo porto dietro. Quindi c'è l'arbusto che Entrate nella stanza sud. Probabile. E vi trovate di fronte. Scusami. Ah, c'è qua. L'avevo vista la rosa. Cioè, c'è la posta. Quella in basso ho assunto, però a volte ne ha detto Giale che ci prendono a mangiare la vita Masaniello, perché praticamente che cosa da Masaniello? Non ci prendono. Ci prendono, però non c'è prenotazione. Vi ho detto se al massimo c'è un tavolo occupato, io mi aspetto un attimo che se ne vada, noi arriveremo in risultato. È solo che sono 10. No, vabbè, ma lì non mangia mai nessuno perché non si riesce a spendere solo l'asporto. La cosa che ho detto che è presa lì, mangiata appena sfornata, è molto più buona che dopo l'asporto. E quindi poi andiamo là a mangiarla. Ma che altro c'è? Che palle. È alla Porta San Felice. La e niente, però ho detto che si ricordavano di loro perché hanno preso una pizza e un terzo, perché hanno preso 4 pizze in 3. Wow. Infatti c'è. Cioè io venerdì ne ho mangiate 2. Dopo domenica si ricorderanno di noi. Che campa. Entrate nella vetreria, però perché una era gratis. O il cioè, noi siamo saliti su questo. No. Ah, no, cioè, al meglio, quando io ho chiesto al maestro. È il laboratorio dove vengono fabbricate le bottiglie. Ah, sì. Ah, giusto. Sì, ci sono. Domenica, sera, no? Sì. Dobbiamo fare 25 pizze in 7. Dal muro a sud c'è una finestra sporca da cui entra una luce fiocca. Come vedete da tutti gli strumenti che sono disposti in giro, è qui che venivano fabbricate le bottiglie. Infatti è il sempre laboratorio bot del vetraio. Vero. E qui ma domanda sia nell'altro laboratorio che in questo, danno l'idea che oggi qualcuno abbia lavorato, non ci lavorino da mesi? È tutto in disordine. Quindi che non ci lavorino da un po'. Sì. Certamente. Non avranno lasciato per sapere se quanto tempo perché Madonna Sheo, quanto siamo in ritardo, devi andare. Vi ricordate due paroline che vi risuonano nella testa? Non serve niente. Non serve verde. In questa stanza principalmente ci sono due cose. Non legno serve verde, dice. Per alimentare i fuochi. E la sabbia per fare il vetro. Sabbia per fare il vetro. Quindi cosa ci dobbiamo ricordare? Crema solare. No, fare il vetro. Che il buon vino nasce dal vetro. No. Aspetta, non mi dire che sono le... Sarà una delle cose. Sì, catta. Ok, dai. Dici cosa ci ricordiamo. Vi ricordate che... Sotto il vetro la per casa. Fare il vino ci vuole l'albero, l'arbusto, la bottiglia ci vuole il vetro, la carta del commerciante era la carta che raccontava una storia. Una storia di antiche conoscenze che vi aiuteranno a meglio comprendere il vostro nemico. Io mi ricordo, però ero assente. Non so. No, tu ancora non giocavi quando abbiamo la vecchia vi disse: guardate nel mago delle vigne, tra il legno e la sabbia il tesoro si nasconde. Ah. E voi vi siete scordati questa frase? Giù! Doveva essere una one shot, sì. Cioè, io comincio a tirare delle cravatte passate, sul pavimento. Sono passate 20 sessioni e doveva essere una one shot, quindi sì. Cioè, l'ho segnata. Ve l'ho riscritta di nuovo. L'ho segnata, commerciante, traditore, sì, prete, bestia, broken one, ma non ho tutto il commento. Oppure scritta nel commento. Broken one! Ma carico adesso. E carico la cioè, stampa. Mentre della seconda. Vabbè, cerchiamo mentre qua, della dai, seconda dai, lettura dei tarocchi ho scritto tutto. Vedi, della seconda lettura dei tarocchi ho scritto tutto. Poi lì. Vabbè. Nella fornata, non so come. Forno. C'è un forno. Sì, c'è quello per soffiare il vetro. Provo a studiarlo ovviamente senza bruciarmi. Tra la sabbia, il vetro, il fuoco. Vai, vai dentro il fuoco. No, c'è un tipo vetro. Cioè, se ci guardo dentro c'è un e riesce a bruciarsi col forno spento. Più fondo. Ti tiro un calcio accendo. Cosa? Ma che vuoto! Bardi strana si mette a svuotare le botti di sabbia e dentro ad una cade per terra un libro. Cerca del fuoco. No, tra la sabbia e il vetro ho ipotizzato che fosse il luogo dove la sabbia diventava vetro. Beh, la sabbia e il legno era la profezia. Ah, scusa. Ecco. Vabbè, no, del resto è intelligenza otto. Vabbè, me la ricorda. Ma tra la sabbia e il cielo. Mi girai nel mondo. Per andare, rega, devo andare nel mare. È passato tanto tempo il mio personaggio se ne ricordava. Non c'è un mare, Barone. Il tuo personaggio neanche l'ha sentita sta cosa. Un libro. Cioè, l'ha sentita l'altro perché è morto. Allora, io vedo il libro. Cioè, il libro cosa, ha qualche scritta? Sulla copertina Scemo c'è scritto io, Strad. Io tipo, siccome nel mio background nuovo bestseller. Siccome il mio background è il diario di Strad, scoperto, esatto. C'è un momento tipo di panico nei miei occhi tipo, e poi dico, fermi tutti! Bravo. Io faccio tutti i segni e varie cose. Beh, mettiti un inspiration. Non ce la c'è. Sì. È tipo la prima che gli do. No, no, l'inspiration non si fa meno. In realtà io le uso abbastanza. Anche. Se sei particolarmente calato nel tuo personaggio. È tipo la terza. Ah, sì, ma Fabro il personaggio. Non l'ho capito. Fabrustro. Beh, pieno di ansia, di paure, di tic. No, beh, perché lui fa sempre zuppo. Cioè, tu hai dato l'inspiration perché non hai capito un cazzo di quello che imitava. Bel master di merda. No, beh, vabbè, però il concetto è simile. Comunque io sono lì impanicato. Ok. Il vostro paladino è impanicato. Cosa è strano. È una novità. Vabbè, gli metto una mano sulla spalla, lo tranquillizzo, gli prendo il libro di mano. Se non ho... No, è per terra. No, non lo tocca neanche. Vado nel forno con Shea. No, prendo il libro e gli dico: tranquillo, è solo un libro. Non dobbiamo leggere assolutamente il contenuto, dobbiamo bruciarlo qua, seduta stante. Conosci questo libro? No. Però allora. Carlo, portalo nel forno insieme a te. Ricordi cosa diceva? La profezia. La prossima bestseller. La profezia. Questo dovrebbe essere il tesoro, effettivamente. Questo dovrebbe essere un tesoro per noi, quindi è sicuramente utile. E lo apro. La prima pagina. E se sei morto. La calligrafia è quel corsivo incomprensibile che era. Intelligenza 8 non vuol dire che sono analfabeta. No, non sei analfabeta. Però. Nel tuo caso. Assoluto no. Però nel tuo caso. Dato che ci sono innumerevoli persone che si lamentano perché la calligrafia di Strad non si capisce, fai comunque fatica a leggerlo. Perché a quanto pare non insegnano più il corsivo nelle scuole. E quindi la gente non riesce a fare così. Cazzo. Non ho capito. Questo lo dico nei forum o lo dico nei forum? Ah, ok. Sì, sì, sono gente che si lamenta, ah, non si capisce un cazzo. Va bene. Sul serio? Sì, sì. Cioè, non che sia comprensibilissima, però. Cioè, non c'è scritto tipo di corsivo di stazione. Vedi, sono tutti così. Lo scaglio. lancio di una pallina da baseball. Dai, vabbè, sì, rovinare il spoiler, gioco. È il lancio di una pallina spoiler, da baseball. Spoiler. E ti arriva addosso. Allora adesso lui fa il figo, non si muove. Vabbè, vabbè, come la mia elementare fa adesso. Ah, minchia, da lì arriva. No, che fa il figo, non mi sono mosso, hai visto? Non batto neanche le ciglia, guarda. No, un po' la ciglia l'ho battuta. Ah, però lei è venuto proprio, non sapendo, ti viene a fare così. Io stamattina l'ho guardato, io ti ho fatto così, cioè tipo, ero lì che l'ho guardato. Perché sai cos'è che ti manda? Lui gira la mazza quindi e la prende anche. Sì, quindi pensi che sia, e invece sì. La svegliata male. Apre le prime, una pagina, le prime parole che leggi sono: io sono l'antico, io sono la terra. Se riesco le leggo ad alta voce, tipo come i bimbi: io sono l'antico, io sono, tipo così leggo, perché Stralt compare, è un barbaro intelligente. Grazie. 8. Grazie, lo stavo cercando, tanto siete utili. Se nessuno mi ferma continuo a leggere ad alta voce, cioè non urlando, tipo le mie origini sono perse nelle oscurità del passato. Sembra giusto che il barbaro si metta a decantare. Io ero il guerriero, io ero buono e giusto. E poi vi stamperò queste pagine. Basta. Vado al finale. Mi spoiler. No, davvero, leggo le ultime. Non abbiamo tempo per questo momento. Le ultime parole. Molte pagine sono rovinate dal tempo e dal. Volevo vedere se c'era effettivamente la firma di Strano. Perché non ho mai visto la sua calligrafia. Voi avete visto la sua calligrafia? Abbiamo visto la sua calligrafia? Sì. Nella lettera. Ah, nella lettera all'inizio. È la stessa calligrafia? È la stessa calligrafia. Riconosco la calligrafia. Non abbiamo tempo. Ah, è vero, io non l'ho vista. Cioè, io giocatore sì, ma è arrivata anche una seconda lettera. Anche una seconda lettera. Ah, è vero, sì, l'ho vista. Non abbiamo tempo. Invito a pranzo. Ah, sì, è vero. Non abbiamo tempo per questo. Ma è la calligrafia di Strad. Quindi è l'autobiografia di Strad. E perché è qui? Non abbiamo tempo per questo. Brucialo. No, brucialo, però mettilo da parte. Allora, se va bene, accendi il forno. Va bene, segnati il tomo di Strad. No, tomo di Strad. Magari la della Costituzione anche a me. Invece. Cazzo, andiamo a darci. Esatto. In questa stanza c'è anche una scala che scende verso. Mi hanno rubato il tomo! Sottoterra. L'ho notata. C'è una. E un'altra porta che dà verso fuori. Allora, però non va bene sotto perché andremmo ci imprigioneremmo. Quindi non lo so, in realtà anche andare su tecnicamente è la stessa cosa. No. Ah, perché su poi bruciate tu. Vabbè, lui soprattutto noi abbiamo. Più ci sono più stanze. Bruciate tu. Non lo so, però. Io andrei a questo punto su. Bruciate. La smetti? La smetti! Questa era vecchia, l'ho liberato senza di più. Puoi indirizzare meglio quella vecchia. Andrei su, cioè chiuderei. Però questo qua, deve puzzare, raga. No. Bloccherei la porta qua e andrei su. Ma non intrappolarsi anche così. No, bloccherei la porta che dà sta roba qua. Ah, è quella che va giù. Esatto. Quello lì. Ma raga, veramente sta facendo stati lettera per due vecchi di merda. Vabbè, blocchi alla porta e via su. Mi allungo nella scala che va giù e faccio un ascoltare con le allungando il collo semplicemente. 5. Vabbè. Non senti niente. Va bene, facciamo così. Da che parte salite? Saliamo dalla scaletta al centro dove c'era il livello. Oddio, potremmo salire da sotto. Posso aprire la porta giù, gli sparo i lupi, chiudo la porta. Da che parte salite? Tu hai segnato quanti incantesimi hai? Sì. Bravo. Potremmo salire dal soppalco. Lanciando in continuazione, senza fare banalmente, così apriamo una. Vabbè, non sappiamo quanti ne avessi ancora. No, io ho fatto semplicemente le forme selvatiche. Tra l'altro sei ancora in forma selvatica. Sono ancora in forma selvatica. Quindi, Boba, no, cosa sei, un orso? Sì, quindi non abbaiano gli orsi. Cosa fanno? Orsa. Cos'è che fanno gli orsi? Ah, c'è la lezione di Giulio l'altra volta. Ritorniamo alla lezione. No, vabbè. Dungeon con gli animali. E grugniscono. Va bene, quindi grugnisce. Non mi ricordo. Sentite l'orso grugnire. Che l'altra volta mi ha tirato il verso dell'alce che brannisce. Quello del quello che ha lanciato. L'animale è di Cantropi che lo inseguiva. Ma l'orso secondo me ruggisce. Però ho fatto riposo breve. È quello, non ti cambia. E va bene, svariamo la porta. Bruglia e bruisce l'orso. Ah, no. Ragazzi, andiamo dalla scaletta dove c'erano le 13 botti o andiamo dal soppalco? Le cosa? Per andare da su. Da che parte saliamo? Andiamo da questa scaletta, dal soppalco, da dove saliamo? Oppure dalle scale a chiocciola. Andiamo dalla scala a chiocciola grande. Così siamo. Allora, il soppalco sappiamo che è sicuro. Beh, vabbè, ma tanto lo vediamo. Il soppalco finisce qui e poi ci sono le porte. Se no andiamo da una scala a chiocciola. Vabbè, allora, vabbè, guardando la mappa non ha senso più. Cioè, ha senso andare dal soppalco e andare qua. Cos'è? Perché vabbè, qua la sta scala in teoria finisce qua. Cioè, se no, noi conosciamo molto bene la mappa o sufficientemente bene per sapere dove siete e sapere cosa c'è nelle altre stanze. Cioè, in realtà questa prosegue poi su ancora, immagino. No. È finita la casa. Sì, c'è il tetto. Che come cazzo fa? Entri da qua. Senti come fa? Sali da qui. Piano terra. Ci sono tre, cioè ci sono quattro scale per arrivare. Piano terra e primo piano. No, è che qui lo vedi perché il soppalco della questa stanza è la stessa, solo che ha un soppalco all'interno ed è alta due piani. È che ci sono due... che questa stanza è alta due piani con un soppalco. Ma quindi scusami, questa porta qua sì. È sul soppalco, all'altezza del soppalco. Sopra, esatto, che è collegata al soppalco. Poi qua soppalco e piano okay. Superiore sono alla stessa altezza. Ma io entrerei da qua. Va bene. Ok, quindi se no vogliamo splittare. No, perché qua, cioè se noi saliamo da sopra, metti che c'è del casino qua. Sei circondato, comunque sei siamo, bloccato, sì. Cioè siamo un po' fortunati. No, va bene, lì hai la via per scendere. Possiamo uscire, poi ci siamo tutti. Okay. Va bene. Dove il numero non controlla nulla. Spuntate da lì e c'è un corridoio. Ci diamo un ordine. Che vedete ed è e collega. In realtà però sto salendo da Orso, ci passo. Sì, ci passo. Ci diamo un ordine. Prima gli orsi. Prima l'orso e poi io se volete. Ah, ma è davvero orso? Sì. Sì. E ci passa? Sì. Beh, quindi per forza di là perché sennò dall'altra non ci passava. Beh, si stringeva. Sì, vabbè. Era il mio alce. Se è il tuo alce no. Invece d'orso gigantesco per quel cazzo. Quello è morbido e quindi lo puoi. Vabbè. Che cazzo è uno zaino? È come una un gatto. Borsa per andare su Ryanair. Come un gatto. Hai abbracciato un orso. Quando un orso è bagnato, quando invece è asciutto, la forma vera è quella bagnata. Non hai sentito il TG? Tra l'altro ne è scappato uno saltando quattro recinti. Sì. Una roba. Era lui. Che fai? Quattro recinti. Sì, avevano messo sto orso dentro questa. No, non gabbia, era proprio un posto apposta per tenerci dentro gli orsi. E era la prigione degli orsi. La prigione degli orsi con recinti elettrificati. Quelli che hanno messo le recinzioni erano addestrati. Esatto. Cioè, tipo tre recinti elettrificate, un ultimo alto 4 metri e lui. Ah, sì, sembrano le cose di Jurassic Park in cui mettono i dinosauri. E qua abbiamo il dinosauro più pericoloso del mondo. Dove abbiamo fatto questa cosa di bottiglie di plastica. Non potrà mai uscire. Oh mio Dio, è scappato! Il parco è in pericolo. Quelle bottiglie rovesciate. Chi l'avrebbe mai detto? La vita trova la strada. Una bottiglia per terra è passato di qui. Va bene, come ordine direi davanti l'orso. E se volete io dietro di lui, tanto io cammino sulla parete volendo. Facciamo che stiamo sulle pareti e loro due in mezzo. Io su questa parete. Loro due chi? Che io non ci sono. Ah, è vero. È vero, giuro, c'è. È vero. Ma che fai? Ma che sai questa sessione di Non lo so. Non è per mangiare. Era la sigla, era più suona. Speravo di fargli fare la parte quando scendono lì. Perfetto. Ceo. Sei perfetto, ceo. Vai. No, il primo che entra è l'orso. Vai. Ah no, ma da orso un po' meno, però comunque la proficiency. Bombe! Io 4, 6, 21 più quello dell'orso. Ah no, il cazzo, vabbè. Perché io uso le mie cose intelligenti. E allora questo, 24. Ha! Perfetto. Tu face checki la porta e alla tua destra, mentre entri, si apre anche quella nella stanza nell'angolo. E chi c'è? Spunta fuori un altro orso. Un rinoceronte. È un arbusto di vigna. Un arbusto vignoso. E niente, tirate iniziativa. Vignoso va bene. Cioè, io devo forse, ho dovuto buttare via un 24 in perception per vedere un arbusto di fronte a me. Sì. Catta, solamente perché non vuoi farmi. Bumble. Ok. Dai, fammi giocare qualche cattivo. Prego. Mi serve un brown bear. Cosa cambia rispetto al solito? Che non tento di uccidere il party di solito. Cioè, in questa campagna. In questa campagna non è mai accaduto. Ancora. ripensiamo sui fatti. Chiamo la dimostra. Testa nella tazza, la norma di pappagallo. In questa campagna non è mai accaduto. Non è ancora. Disse con sconforto. No, uccido solo, uccido solo i PNG innocenti. Ah, per te. E quanti? Uno. No, era anche per lui in realtà. La moglie anche te. Non era innocente. Se il marito era non era innocente, neanche la moglie era innocente. Come, giusto, come la moglie dei boss mafiosi. Giusto. E poi lì era assicurarsi la catena di comando. Cioè, si fa così. Cioè, non è che nella rivoluzione francese hanno detto: no, non uccidiamo Maria Antonietta. Però Maria Antonietta era un po' troppo. C'è neanche qua, guarda. Vabbè, che ne sappiamo che la moglie del borgomastro non lo so. Già, c'ho i pasticciotti di Malachi. Non possiamo saperlo. Beh, però sappiamo che il marito era fuori di testa. La moglie tanto a posto non poteva essere. Beh, comunque faccio 10. Vorrei che tirato l'iniziativa. Ho tirata. Tu hai tirata? Sì, ho 10. E devo tirare l'iniziativa. 9. Una o due? Questa qua sopra e spostala in qua, se no non riesci a giocare. Giulio, fai meno di uno. Non lo vuole mettere lì, però. Se no voleva appoggiare lì, ma non la mettevi tu. Chi è che manca allora? Bravo, no, sei riuscito a far aver ragione a Shea. 9. 9. Bardestan. 9. 1. Veramente? E giustamente manca Race, ok. Mentre lui... Come davanti a Race. Carico. Dimentichi l'as. Va bene. Quanto ha fatto l'as? Io ho fatto 10, sono il primo. Merda, che sì. Compagnia di cappati. Sveglia. No, vai tu. Spingo no. Sedia a rotelle e attacco il. Sei davanti. Ho vantaggio, però. Perché ho due attacchi. Ha! Il primo, boom! 18 di dado. Dico solo questo, quindi mi sa che la becco. Contro chi? Contro il Vine. Vine sì, Blight. Quanta gente c'è? Sono due di quelli e un droid. Secondo attacco, bam! 5 di dado, però più 18 di dado di prima, 23. Non becco. Il dado di prima becchi, questo... 10. No. Allora faccio un di 8 più 4, perché sono onesto. 8. Però lo sai lanciare i dati. 8 più 4, 15. 5 più 4, 9 danni. Io davvero lascio. E devi fare una prova di forza di 14. Scherzo. Passo. Garrosh. Garrosh. C'è un orso di fronte a te. Vabbè, vado in ira e cammino sulle pareti, cazzomene. Cazzomene delle pareti. Giusto? Ok, quindi tu fai questo numero e poi ti ritrovi. Sono in tre. Il druido è più indietro e davanti ci sono questi due. Vigne arbusti di noce. Sul druido allora, visto che riesco a... Chi se ne frega del corso, lasciamo morire in mezzo ai vigneti. Non ha più senso, tra i due che salto e vado dietro. Okay. Più hai un modo per evitare l'attacco d'opportunità che ti farebbe? Prendo. Non è che attacco d'opportunità, non mi sempre. Non si posso fare un attletico, quindi... Faccio un atletico e gli tiro una spallata passando per impedirgli che lo faccia. Lo sorprende, lo evita. Lui non si aspetta che io corra sulla parete mentre passo gli tiro. La parete, io l'ho evitato, va sopra. Vabbè, ma lui ci arriva comunque a dargli un ceffone. Qual è un'azione per questi arbusti, scusa? È una creatura media, no? Sì. Come una persona. Quella è un'azione, quindi non potrei caricare, questo mi stai dicendo. Mm-hmm. Allora prendo l'attacco di opportunità. Ok, prego. Hai 18 mi 20 tiro i dadi o faccio un... Poi uccido. Oppure lo diamo per morto. No, prendiamo la media. Qua il minimo che posso fare con le tagliare. Prendiamo i dadi che è più. Ma sembrava un tiro i dadi o quindi ti arrendi così? Che faccio? Mi è venuto 50 danni, lascio o. Come contento, può giocare i suoi personaggi senza dover fingere di essere un personaggio. Cioè può giocare se stesso senza dover fare il suo stapantomino. Ma dipende perché... 13 danni! Minchia! Era meglio la media, capo. Dai, non l'avevi visto Giulio tirare così bene. No, non è vero. No, non devo alzare i cavalli, Vabbè, detto questo. Hai riduzione? No. Sì. Il mio non ha resistenza, sì che hai resistenza. Che dove cazzo, hai fatto l'unico barbaro più scarso di tutti? Allora hai 17 punti ferita. Rimasto. Ah, l'ho già messo così male. Sì. Ma non hai la cosa. Il mio non riduci i danni? Tu ne hai 26. No, ma in Ira di base è ha resistenza il bardo. No, solo se sei orso, mi sa. Se sei orso hai resistenza a tutto. Vorrei vedere. Se sei normale hai resistenza. Devo spazzarli subito. Sei sicuro? Perché l'orso ha resistenza verso tutto tranne gli incantesimi. Io non l'ho mai applicata. I colpi magici, ok. E sei preso in lotta? È un livello di disordine, è resistenza. Scusa. Cioè, lo devo sapere io. Dove è stato l'altro? Sarà che mi scopro a livello 5, cioè. Comunque detto questo faccio attacco incauto, quindi ho vantaggio e lei avrà. Cioè avranno vantaggio su di me. Ok. Sei grappled, eh? E ho fatto bene a farlo. Non può tirare. Sono preso in lotta. Sei grappled. Ma anche una. Che un attacco di opportunità? Se si attacca, attimo. Cioè non lo so, il suo attacco va questo. Sì, anche perché è solo quello. Cioè, mentre passo così sul muro, lui boom mi prende. Non posso neanche fare un tiro. No, hai UCD di C12 per scappare. Con vantaggio o svantaggio? No. Non è una, prova. Una prova normale. Quindi non è. Su forza. Però almeno più due. Come vuoi? O atletica. Mi piace l'atletica. 18. Yes. Però vale come azione, non posso attaccare. Però è davanti al druido ora. Sì. Quindi non ho fatto attacco in cauto. Esatto. E dopo Garrosh tocca loro. Posso, domanda, non finire il mio movimento ma tenermi 3 metri almeno. Cos'è? Per fare il mio caricamento. No, c'è lo spazio o no? È lui che è più indietro. Cioè hai lo spazio perché lui sta a distanza di sicurezza. Quindi com'è la situazione? Niente, ci sono loro due davanti. Cioè loro due davanti, scusa. Cioè loro due in mezzo, perché c'è lui che è saltato dietro ma è stato preso. Okay. Tu sei tra me e Sheo. Ok, esatto. Allora, uno attacca Arci. Quello che ho attaccato. E non ti manca. Non è difficile, cioè non mi confondo il fatto che lui è contro di noi. 7. Mi trovo. Esatto. E l'altro però fa l'altra azione, Entangling Plant. Quindi. Su me? Tutti quelli in un raggio di 15 piedi. Dai, il master non sarebbe così pignolo, usare tutte le abilità. Dai, due. Due. Per un minuto in un raggio di 15 piedi il terreno è difficoltoso per le creature che non sono piante. Ho capito. In più ogni creatura. Un albero orso non ha problemi. Neanche un minuto. È il terreno, non le pareti. E come scusa è anche? Ogni creatura ogni creatura è scelta dell'arbusto ci prende tutti i difficoltosi. Vabbè, ma sono già apparse le piante. Quindi sta parte o essere aerea. Sì, ma quello sono. Fammi un'altra domanda. Però qui sono già apparse. Sì, ma adesso chi è presente deve fare il tiro salvezza per evitare di essere. Ok, dovete fare tutti un. No, tutti non so. Nessuno vuole essere l'ordine. Sì, anche Vezza. Tiro salvezza 12. Su cosa? Tiro salvezza 12. Forza. Ti prende in lotta, penso che. Perché io non sto. Ah no, ma io devo farlo. Entro 15 piedi. Vabbè, anche delle pareti? 4 anche se non sei dentro, sei comunque entro 15 piedi, sei sulla soglia della porta. Vabbè, sono in lotta io. Cosa sono... fare? Forza. No, per Grabbit devo dire afferrato. Forza va bene. No, ma questo non è 18. Quindi sono restrain davvero. Adesso tu passi, no. Tu sei restrain. Sì. Vabbè, vuol dire che sono un movimento pari a 0. 17 più, scusa, era forte. Sì. È superato. Bene, poi c'è il loro amico che da lì dietro vi maledice in druidico, quindi tu lo capisci. Mm-hmm. Oh, sta maledicendo! Anzi, scusate. Lo capisci che io faccio. Peccato, non ha molto di gustoso da lanciare qui. Di cosa ci lancio? La pappardella. Lui. Ah no, perché c'è cosa lì in mezzo. Che duro lo straccione, volevo dire straccione. Fa un passo indietro per far sì che l'incantesimo che lancia colpisca soltanto Garrosh e lancia Thunderwave. Che è un tiro salvezza su. Brucialo con Thunderwave. In costituzione. Prego. Scusate, mi dici tanto di che cazzo di livello è comunque parte di del primo. 12. Ma che minchia dici? Considerate il più 7. Porca troia. Hai superato. Druid Pale. Thunderwind. Che ironia. Quindi cosa mi accade? Quindi... Vecchi dei D8. Esatto. Anche se mi tappo le orecchie. Ma è uguale a... coso infuocato, Anche se mi tappo le orecchie. Prendi mezzi, cioè grazie al fatto che riesci a tapparti le orecchie prendi la metà dei danni. No, scherzo. Ci sta. Vabbè, ci sta. Il mio tiro salvezza è essermi tappato le orecchie in tempo. Ci sta in realtà. Quindi sono 7 danni. Questi però non dimezzano. Questi no. Thunder damage. Danni tonanti. Scusa, perché non c'è? Che palle, guardi strano. Poi che è successo? Io posso muovermi. Ho sentito un gran busso, un gran frastuono. E vedo lui niente. Che viene scaldato. No, lui è lì che resiste perché mi sono tappato le orecchie e ho dimezzato i danni. Vabbè, vado avanti e attacco chi posso attaccare. C'hai un orso di fronte a te. Salta, Pez. Sicuramente passerà dalle scale, ma una persona non può andare lì fianco a un orso. Il punto è che ti devi fermare per attaccare, però in realtà siete in una situazione favorevole perché... Devo fermare sì. Per attaccare, vabbè, sì. Puoi metterti nel quadretto di fianco a quello in cui è lui, perché siete nell'angolo. Ok, quindi posso attaccare qualcuno o no? Sì. Metti accanto ad Arci e carica e attacca. Allora faccio 22. Colpito. Stai attaccando quello che ho attaccato prima io? Palle. E 10 danni. Solo una volta lo puoi tirare. Sì. Va bene. E accettare del secondo. Quindi non è ancora morto questo? No, è ancora vivo. Allora provo un altro attacco. Spaccalo, Vez! E faccio fallo. No, perché se diceva ritira gli 1 è un loop in realtà. Se continui a fare il no, ci lascia entrare. Gli 1 e i 2 di tiro. È svantaggio. E accetti se quindi se fai 2 che sei restrained. Mi libera. Allora usi la tua azione per liberare. Scegli 12. Cazzo, questi arbusti sono forti però. No, Vezza, ti faccio due di dado. Capito, non nel senso, però. Tu hai fatto 8 danni per armi o no? 10, hai superato tutte le no, però io ho più attacchi, posso fare un'altra prova, no? Una volta superato sono libero. Un semi nuovo all'interno. No. Vabbè, io nel dubbio. È terreno accidentato. Vabbè, nel dubbio io faccio caricamento sulla parete. E solo e vai addosso al. E con attacco in cauto. Attacchi il droid. Esatto. Faccio. Vabbè, entrambi 16 i dadi, carino. Colpito. Più 7, vabbè. E quindi faccio un di 8 più 6. E sì, 12. E posso fare l'attacco extra dovuto al caricamento. Perché posso scegliere se fare l'attacco extra o scaraventarla indietro, spingerla più qua. Sì. Quindi faccio l'attacco extra. Però normale, non incauto. Sì. Ma cos'è che c'è stasera una specie di luna che. 26, quindi sì. Quell'evento eclipse. Sono 13 danni. Sto. No, l'attacco extra da 5 danni ulteriori, quindi 18. Quanto gli hai fatto? Prima quanti ne avevi fatto? Era 12. Quindi 30 in totale. Morto. Sono un montone. No. Sono un montone. Il mio animale totemico è sempre un mondo. Non è che ti trasformi in un mondo. No, però è carina l'idea che hai quelle cose tipo nei cartoni. Sì, che... ok, posso passare. Non so se attaccare l'orso o attaccare chi ha ucciso il druido. Guarda, guarda, guarda come è tipo nel suo habitat naturale, è bellissimo, grazie. Vabbè, l'abbiamo liberato, come quando liberi un animale nel suo habitat, è perfetto. Ah, devo vedere se si ricarica il l'entangling plant ecco, del tipo. Si ricarica, quindi il tipo lo rifà. L'intralciare, per capirci, ok. Un CD 12, okay. No, tu sei già restrain. No, 13 di dado. Ok. Ha rifatto intralciare CD 12. La piantina. È un CD 12. 13. Ok, superato. Sì. L'altro attacca. Forza, no, era? Giusto. Perché? Sì. No, perché sì, perché. Vedi, vedi che sta giocando Giulio, attacca no, a me! Perché io ci sono due. Prende l'attacco di opportunità dall'orso se saluta. Quindi, gioca, quindi oggi indietro. Sceva, è indietro. Dove era il druido? Io sono dal druido. Scusa, e aspetta. Questi qua invece erano davanti. Tu ti giri e ti allontani. Ah, ok, ha fatto. Ok, no, allora non attacca. Attaccarci. Io ho già fatto attacco di così. Cioè, dovresti cioè l'orso davanti non dovresti girarti e andare. Sì, non pensavo che fossi distante, pensavo che fossi. Sì, sono arrivato al druido. Sì, ma pensavo che fosse entro 5 piedi. Entro i, no, perché era 10 indietreggiato. Ah, ok, che cosa? Ok, becco Arci. Senza chiederti la C. Ho 17. Ho 11 di 21. Quanto ho di vita io? Sono full da orso. Sei full da orso e 52 ne devo. Grazie. Non so se è una scelta la torta. Perché ho 52 da druido? Nel cellulare. Ah, perché ho perso il DPF prima. Non so perché. Stavo perché mi si è abbassata la costituzione. 8 10 danno. Fanno male? No. Barra di strada. Continuo a attaccare. Poco sgargiuta. Ah, 10 danni e CD 12. 13? Cioè? Colpisce. Devi farci yes. Queste cose? Vai. Forte. 15 danni. Non puoi fare così tanti danni. 6 più 5, 11 più 4, 15. Ha tirato bene. Morto. Ha tirato bene, 6 e 5. Oh, pianta di merda. Oh, posso staccare l'altro, no? Certo. Stupro, Vez, 20! Porca miseria, ma oddirlo, 11! Vabbè. È vecchio, eh? Becco? No, è 12. Ah. No, è il più uno mio, siamo... Ora dell'orso. Non fai la cosa dello spalleggiamento? No. Ah, però hai scelto tu di non farlo. No. Puoi scegliere se farla. È diverso. È vero. Ma tu sei restrained. Non c'entra, comunque sto minacciando. È vero, puoi scegliere. Restrained sono bloccato, non è che non posso attaccare. C'è la regola opzionale per cui se due fiancheggiano uno si danno vantaggio. Ma è sbagliatissima dal mio punto di vista. Perché? No, no, è. Perché ha vantaggio il giocatore, no, quindi no. No, no, no, quella è esagerata. Ma no, tu sei restrain, non l'hai neanche attaccato. Cioè, tu sei lì bloccato. Ma ora non è più restrain. No, lui è restrain. Restrain, mi sa che semplicemente. Vabbè, non c'entra, rimane vabbè. Per un minuto. Comunque, restrain, Giulio, mi sa che ho movimento a zero, ma non sono bloccato. Io posso attaccare. Sì, hai svantaggio sugli attacchi, esatto. E vantaggio quindi, per colpirti. Quindi, per questa cosa qua, comunque minaccio io, capito? Sì, ma che sono handicappato, cioè, sono un po' più. Molto semplice, questo non andate, ce l'ho no, esatto. La cosa che, fai la spalleggiamento che dà vantaggio è barata. Infatti, nell'altra campagna abbiamo usato quella cosa che prendi solo un più uno. Ah. Quello beh, che detto, più uno ci sta. Che è una via di mezzo tra il togliere tutto il bonus. No, e perché in questa edizione non quando fai una più. Tua campagna lo potrai usare. Ah, beh. È vero. In questa edizione non ci sono i modificatori, quindi non ha senso introdurli. È vero. Però è più moderato della del vantaggio. Sì, il vantaggio è imparato, ma merda. Mm-hmm. Bene. Vabbè, un piccolo bonus ha un senso. Bardi strano ne ha seccato uno, l'altro l'ha attaccato e ha mancato. Tocca a me. Dai, boom! Sei liberato. Sono liberato? Ah, non era quindi... per colpire, che sfiga. Ha fatto 20 e è esaltato. E quindi basta? Sì. In realtà qui hai esaltato. Cioè ti puoi muovere. No, vabbè, sto lì. Garrosh. Cioè c'è solamente uno rimasto, sì, no? Sì. Posso... quindi mi giro. E carico, beh, posso farlo, sì. Il mio caricamento sempre sulla parete, se è intralciato giù, beh. E faccio attacco incauto, fa 19 più. E il primo attacco è un di 8 più 6, quindi sono 8 danni. E poi minchia però! Ma che cazzo hai mangiato? Ho visto sempre veramente veramente. Faccio tardi. L'attacco extra non incanto. Madonna. E 9. Cazzo, mi sa che non prendo 16. 13. Cazzo. 1 di 8 più 4 più 2 è 16. Ed è 16 danni. Minchia. Ma è ancora in piedi. Va bene. Sei un maestro. Cazzo, ma se ti attacchi un tubo riciclo il metano buono. Se lo attacca allora Garrosh. Pezza, è qualcosa che funziona. Fumble. È qualcosa che funziona. Perché avevo usato l'attacco in caut. Ah, è vero, hai vantaggio, sì. Fumble. Ero distratto da questi. Scoreggio. Uno e due. Boom. Carico. Vai, Vardis. Allora. Oh, 12 però. Direi anche ucciso perché credo abbia due punti feriti. Oh, 15 di nuovo! Bam! Lo spacchi in mille schegge che cadono per terra. E poi gli faccio BAM! Avvizziscono. Ma se gli faccio BAM cambia qualcosa. Sì. Ah, ah, stai zitto, Giulio! Tutte le protuberanze legnose che erano spuntate per la prossima volta uso il druido. Come si sta tipo quando veniva accadite dalle cose? Giulio viene al mangiato molto meno. Giulio! Mamma, è un dramma, se lo usavo io. Ripulite la stanza da questi tre. So, posso giocare tutti i cattivi nella campagna? Vabbè. Due, ne manca uno. No, avete ammazzati tutti e tre. Due druidi. Ah, due druidi, ne manca uno. Dove sarà mai? Fuori. Questa è la stanza, uno studio. C'è una scrivania. Deve essere la vendita del druido. Ogni volta che muore parte la descrizione. Allora. Un armadietto di legno e. Cos'è? C'è scritto? Una strana contraption che occupa la maggior parte del lato nord del construction o contraption? Contraption, non so cosa sia. Cioè sarebbe nella piantina questa roba qua. Contraption. Ah, è secondo me tipo una pressa. Perché questa è la. Attenzione. Machine or device that appears strange or unnecessarily complicated. No, unnecessary non è una pressa. Perché questa stanza è dove stampano le etichette. Quindi immagino che intenda la. Ah, giusto, ci sarà stampa. A caratteri nobili. No, l'etichetta ci sarà il negativo. Macchina apparecchiatura, marchingegno, congegno, apparecchio arnese. Quello. Macchinario, marchingegno, congegno, aggeggio, affare. Grazie. Affare. Facciamo un affare con occupare. C'è un coso. Bene, dove andate? Dall'affare. L'aggeggio. Scusa, ma l'aggeggio quindi cosa. Per le etichette sulle per bottiglie. Per stampare le etichette delle bottiglie. Ne stampo una qua. Pam. Vuoi farne una con Bardi Strangosier e poi andartene. Poi dopo cosa c'è? Fa vedere la mappa? È qua. Andiamo alla stanza ci dopo. Ci sono altre tre porte in questo corridoio. Sì, facciamo una prima. Dietro una c'è Scooby. Va dentro nella stanza dell'altra. Ci sono due stanze da letto. Ti cerco sempre io così. Con lo strano coso in mezzo. Che spara tardi. Il bagno non c'è ancora per un po'. Quanto rimane Metà del muro. Due stanze a letto c'è qualcosa di interessante. Allora, ci sono due paio di letti. Sì, e 150 minuti. Quattro armadietti identici. ci sono diversi giocattoli 120. Sparsi per terra. Okay. Uno dei giocattoli sembra un drago. Un cavallo di legno, ma è nero e con degli occhi rosso fuoco. Con fiamme arancio dipinte sulla criniera. E non è di legno. Ah. Rappresenta qualcosa che. Scolpito nel legno c'è un nome. Tipo i cavalli di Bucefalo. vabbè, c'è. Cioè. Il cavallo che Giulio ha sgozzato. Era il cavallo di Alessandro Magno, però non credo che. E c'è un'etichetta che riconoscete. La scritta sull'etichetta è: non è divertente se non è di. Linsky. Grande Linsky. Beh, è l'unico giocattolare esistente, quindi immaginiamo. Come fa però a fare la fame? Cioè, è l'unico, da, cioè, è l'unico sì, che fa quella roba. Ma il fatto che fosse fiammeggiante così, domanda molto stupida, cioè, io devo fare. Ci ricordi i cavalli di strada? Non c'entra niente. È solo... cavallo di strada. Io non so il nome. Si l'ha detto quando giù l'ha sgozzato. Mario Bucea! No, io ho due cavalli. Tipo, quanto è infuocato il cavallo infuocato? Giulia ha girato come tipo. Quando è arrivato Radin al mulino, come là c'è una volta il cavallo di Bucefa. Quindi capiamo che sono alleati di strada che dobbiamo buttare giù. Quindi è tipo un incubo. È un incubo, sì. Manca male. Oh mio Dio! Giulio! Vabbè, direi che andiamo alla stanza dopo. Stanza dopo c'è la cucina e la aspetta, sala. Aspetta, prendo con me il buce. Pranzo. Sì, dai, okay. Perché voglio andare davanti e dirgli questo cosa rappresenta? Traditore. Questa stanza ha un tavolo rettangolare, circondato da 8 sedie. E, c'è un piano ad L lungo il muro e una scaffalatura nelle mensole, esatto, chiuso lungo tutta la lunghezza della parete, e vicino c'è una stufa di iron, di una stufa di ferro di ghisa, esatto, e ci sono piatti e vari utensili da cucina e da vettovaglia. È apparecchiato? No. E qua, per motivi assolutamente insensati, bisogna passare di qua e per uscire dall'altro lato. Esatto, oppure vai direttamente nella stanza successiva. Sì. V17 è la stanza padronale. Questa è la stanza che di solito utilizzava Davian, il vecchio. Che tra l'altro questa è l'unica via per la stanza padronale. Devi passare per forza in cucina. No, hai ragione. Devi passare per forza dalla cucina per andare nella stanza padronale. Vabbè, sei... fame di notte, arrivi. Ah no, per quello. Ma al momento non la usa lui, bensì il druido. No, sua figlia e il suo genero. Contest. Perché c'è anche la culla della figlia piccola, dove tipico dei capisci di chi è la voi non potevate fare un riposo lungo, però loro sono in giro con un neonato. Questo è un letto, potremmo riposare. Questo è il letto, potresti riposare. Mi metto nella culla, divento una scimmia. Un orso culla. Vabbè, andiamo. Aspetta, la testata del letto. Aspetta, amiamo di legno scolpita con le sembianze di un gigantesco corvo. Porlo. Corvo. Corvo. Le sembianze di strada. Un gigantesco. C'è un. Un gigantesco porco. Un basso rilievo che sono tutte le scene. C'è un grande tappeto di pelliccia che copre il pavimento. Un tappeto porno. Ci sono due guardaroba appoggiate al muro a sud con. Un arazzo tra di loro che raffigura una chiesa. La riconosciamo? È quella che è andata così a fuoco? No, no, non... solo l'esterno. C'è qualcuno che ha conoscenze religioni? Sì, giusta osservazione. 10. È una chiesa. Vabbè, non è strano. Della però. Chiesa. Non è strano. No, niente di particolare. Magari. C'è una scrivania. Una sveglia. C'è una scrivania con tutta una serie di dati, di scartoffie, di registrazioni, ma anche molto datate. Dati del vino potrebbero essere? È una lista. Con appunto delle date e delle varie spedizioni. Ok. Le prime che vedete, praticamente la maggior parte delle spedizioni sono state fatte a queste quattro destinazioni che sono indicate con delle sigle. BV, BW, K e Vistani. Vistani, magari è veramente intelligente, super. Cosa vorrà dire questo acronimo? Le date più recenti che quindi sono degli alleati di Vistani. No, di sicuro e di Strad. Di sicuro gli vendono il vino anche a loro. BK, no, BV, hai detto BV. BV, BV, BW e K. Ok, però se dice Vistani, questo non sono città, ma sono proprio persone. Le ultime risalgono a qualche mese fa. K è Kevin. K è... Ah, BV sarà... Barovia. No, Vallachi. Cosa? K, qual è l'altra città? Perché BV? Kretsk. Beh, sarà bottega lì o qualcosa del genere, non so adesso. In Borgomastro. Ah, K Kretsk. W, boh. La locanda di Vallachi si chiamava... Non so, locanda no, dell'acqua azzurra, o in inglese blue watering. E W e l'altro ancora è... Mentre BV, la locanda che c'era al villaggio di Barovia, il primo dove siete andati, si chiamava Il sangue del vino, Blood of the Vine. E se controlli... Oh, no, cioè, prego, Controlli anche le registrazioni più antiche. Scusa, non ci sono neanche. Trovi una quinta destinazione. Che è indicata con una S. Strad. Ah, ora il vinetto anche Strad. E l'ultima spedizione a Strad quando risale? Almeno una ventina d'anni fa. Ah. Beh, relativamente recente. Quindi si vede che prima erano più o meno accettati alleati e poi è successo qualcosa. Spedizioni più recenti in assoluto? Ti ho detto un mese fa. Ah, scusa. Un mese fa? C'è qualcos'altro come documentazione qua? Come documentazione no. C'è una forziere di legno. Si può aprire? È chiuso a chiave. Peccato non avere il... Ma c'è il lucchetto o è proprio la serratura interna? No, la serratura. Possiamo provare a far leva con una spada, con un'accetta? Posso provarci? Di legno. Quello che ho pensato anch'io, però provo con la mia accetta a infilarla. Infilo l'accetta. Il martello di sicuro. No, vabbè, infilo l'accetta di taglio, la uso a mo' di scalpello. Poi lo spiegate voi a Davian come mai. No, come volevo fare col catena di là, provo a infilare il chiodo di taglio all'apertura dove c'è la serratura e provo a picchiare, vedere se si rompe. Va bene, fammi una prova di forza. Davide, abbiamo preso la casa. Quindi i due figli avranno svaligiato. 16, anche. Ok, rompi il coperchio di questo forziere. Dentro il forziere ci sono alcune monete d'oro, molte monete di Electrum e ancora di più monete di argento. Ti metti a contarlo? Vabbè. E il tesoro Perception? Non era tra la sabbia e il legno, era qui. Perception? Mia. No, è lui che ha aperto il forziere. Oh, 20 più 3 fa 23, credo. C'è un compartimento segreto nel fondo del... Che ho visto solo io. Sì. Ma siccome non sono una merda, lo apro. C'è dentro un ciondolo d'oro, del valore di 25 monete d'oro. E all'interno del ciondolo c'è il ritratto di una donna molto bella e Irina. Un altro sacchettino che assomiglia contiene... a Irina? No, non assomiglia a Irina. E c'è un sacchettino che contiene 5 gemme del valore di 50 monete d'oro. Okay. L'una è questa roba no. Se le prendiamo, ah beh, tu dici dobbiamo lasciarle alla vita. Il paladino non dovrebbe lasciarle prendere poi. Allora, non sono padre. Mettiamo tutto in un sacco e poi cioè, lo ridiamo. Esatto, non le lascerei qua comunque. No. Cioè, Salah le avrebbe ovviamente sgraffignate. Le mettiamo in un sacco e le riportiamo dicendo che abbiamo trovato. Tutte. Tutto. La donna non dobbiamo dividerci in maniera uguale. E quello con la donna c'è un'incisione, qualcosa, proprio solo la foto. Angelic. No, noi le prendiamo perché non sappiamo ancora esattamente da che parte stanno. Altro sei metà. No, c'è scritto. C'è scritto Angelica, ti dice qualcosa. Le prendiamo perché non sappiamo ancora esattamente da che parte stanno e perché è inutile lasciarle qua aperte. Però poi le vediamo. Sì, Sì, le mettiamo in un sacco se c'è qualcosa, lasciamo qua il forziere. No, lasciamo qua il forziere. Vabbè. E scordo, direi, ormai è rotto. Esatto, e però possiamo mettere in un sacchetto a parte il ciondolo e le gemme. Sì, le tengo io. Vedi, sì. No? Perché se loro non sanno dell'esistenza, magari è roba vecchia. Che ne sai? Cioè, magari dici che hanno comprato il forziere dentro. No, no. Magari è una roba di chi ci abita qui in quel momento, talmente vecchia che non lo sa. Che ne sai? Beh, no. Comunque è loro, a prescindere. Vabbè, mettile nel sacchetto a parte. Magari non se le ricorda. Vabbè, prendo sta roba e poi gliela darò. Dove andate? Sì, però facciamo due sacchetti divisi. Sia chiaro. Un sacchetto dentro un sacchetto. Sempre no, io ho detto sacchetto, separati. Uno lo tieni te, uno lo tengo io. L'altra volta vado per tre sacchetti. Ricorda, basta con questo. Voglio tenermi una ricompensa. Se non se le ricordano, queste cose ce le teniamo. Va bene. E andiamo. E niente, Catta, dove vuoi che andiamo? Non so dove. Usciamo da qui, andiamo nella porta successiva, che è quella lì. Che dà sulla. Sul montacarichi. Sul montacarichi. Ah. Ok, vai, sembra comunque qua. Sì, sì, poi direi di scendere. Cioè da questo lato. Però. Ed è qui che troviamo il. C'è sempre l'orso che apre la porta. Lui di tre piani. Sì. Tra l'altro, Catta, io vorrei anche ho fatto acuto le prove di. Cosa vuoi fare? Annuso per sentire se ci sono gli odori di druidi di merda. Cos'è? Era buono. 15 è un vantaggio. 15 più 3, 18. Più 3, 21. Ok, dove lo fai questa sniffata? Dove sono? Nella stanza dove di sei? Sono. Ok. E anche mentre usciamo da là, dalla stanza lì. Per sentire se sento qualche odore che mi attira. Beh, l'odore che senti principalmente è quello del vino, ovviamente. Sì, ti copre. Ma degli stronzi. Sì. Molte, molte cose che altrimenti snifferesti con più facilità. E, senti un odore, una traccia di un odore acre, puzzolente, acre. Venire dalla la stanza del montacarichi. Ok, ce l'ho verso. Va bene, apri la faccio porta. Faccio capire prima di aprire la porta e riga c'è che c'è qualcosa dentro. Come lo fai a capire? Dentro? Con l'orso, cioè. Come fai? Ok, io capisco che devo andare, vado. Sembra tutto ok. Vabbè, so che fa ridere, ma puoi fare tipo aspettate con no, la no, beh, come sono anch'io, non è che pensate. Sì, sì. Va bene, lui entra. Okay. Quindi. Allora, anche questa stanza ha ovviamente il soppalco con il buco in mezzo. Sopra il buco c'è questo braccio di legno e sopra questo braccio c'è un uomo con capelli spettinati, denti marci e la pelle dipinta di rosso col del sangue. E impugna un bastone fatto con un fascio di un druido. Sì, un druido. Ha un bastone nero e fatto con praticamente un fascio di viticci arrotolati tra di loro e vi urla contro qualcosa in druidico. Beh, potresti. Potrebbe per loro. È un orso. No, potrebbe parlarci. Ma è un orso. Vabbè, provo a dirgli io. Tipo. No, iniziativa, scusa. Ma no, proviamo a farlo arrendere, magari fa. Esatto, io dico. Fermo, è inutile combattere ormai. Per te è finita. Oppure gli diamo solo tempo di fare diplomazia e dici invece perché avete attaccato questi vinaioli e forse ti lasceremo andare. Possiamo trovare un accordo. Faccio un persuasion. 21. Vittoria. Grande Baldoria. Anche se non è 13. Lui brandisce il suo bastone e dice: la natura si inchina ad ogni mio capriccio, poiché io ho lo scettro del vampiro. E in quel momento, dalla scala chiocciola in fondo, esce il vampiro. Salgono su sei arbusti spinosi, che sono quelli che avevate incontrato nella foresta. Sono tipo gli Oompa Loompa. Quelli che sparano. Iniziativa! Penso di sì. Quindi persuaso 21, cosa devo fare per convincerlo? Nulla. 10 hanno i robusti. Come, senza neanche chiedere? Oh, sono il cattivo. Orso? 7. 8. Erano spazzati. Tranquillo, arriva verso. 6. Quindi come prima, hai fatto pochissimo e sei il primo. Hai fatto meno di prima. No, sei tu davanti comunque. Ah no, devo 7, io 8, sì, scusa. Sono ah, sono davanti. Middle. Sai che partono tutti dietro. Quanti sono gli arbusti? Se no, sono 6. Perché non so se ne rinvio. Ah, però sono i primi arbusti o i secondi arbusti? Sono quelli della foresta. Ah, quindi no, vabbè. Sono easy. No, perché... Perché se in realtà fa... Non va tanto bene. Non so se ti ricordi il male che facevano. È che... Sì, raga, io non ho forma selvatica. Non gli arbusti, io l'ultimo, quelli io che sono attaccati. Quanti lupo, punti però erano facili da uccidere. Sì, però fanno male cane. Quanti punti ho, Giulio? Li abbiamo, sì. 32. È stato il riconteggio perché tu non ti ricordi che la riduzione del danno, sì, me lo devo ricordare io. Ma perché non vado sempre in ira, quindi le poche volte che ci vado non ci provo. Però a questo punto mi conviene andarci per la risoluzione. Allora, il barbaro che non va in ira. Cazzo fa il barbaro a fare? Ci dà 25. Perché io vado in ira, tocca Arci, ne ho uccisi 2, tocca a Giulio, ne ho uccisi 4, lo scontro è finito e io andavo in ira per lui. Ma se io non sono col gruppo da tipo mesi, cioè. Se non sopra il 3 di dado. Non sopra il 3 di dado. Perché lo splitti in due parti. Inizia il druido sul braccio. Un giorno io farò un party con tutti i miei personaggi. Si inerpica sulla cima. E vedete che prepara un incantesimo e si mette ad attendere. E poi partono gli arbusti spinati che cominciano a sparargli addosso. 2 su ognuno. Non possiamo dare veramente fuoco a tutto. Chi sono questi? Gli arbusti spinati. No, sì, 2 su. 2 su Vez. Mancano. Dipende, quante? Beh, no. Ha fatto 5-2 Vez, mancano. È facile. 2 su Garrosh. Così, il cazzo. Porca Giulio, dai. 16 ti beccano? No. Allora solo uno ti il becca. Fatto che non sono ancora in ira, quindi ti becco tu. Ti faccio 3 danni, però. Andiamo. Scusami, un botto di danni, come fanno a farli? No, sono 2 di 6. 6 più. È quelli che fai tu. E 2 su cosa? Che lo beccano. È quello che fai tu, Vez, il danno, no? Fai anche tu. Sono 6, sì. 7. Cioè io più 4, però. Sì, puoi fare un po' di più, certo. 7 più 9, 16 danni. Verità? 8 da orso. E poi di tu ne hai? 52. E forse finalmente. Allora, hai degli incantesimi ancora, sì. Sì, un'altra forma selvatica. Cioè no, forse no. L'ho finita. Dopo farà il druido, pazzesco. Garrosh. E niente, vado in ira più che altro per la riduzione. Ma il druido quindi è però è lassù. Però è lassù, è al centro della stanza. Sì. E sotto c'è il carro con delle botte. Posso arrivarci? Da montone. Quindi la tua abilità da scalatore sei avvantaggiato. Tuttavia. Attacco d'opportunità. Grappolo. Se arrivo e posso colpirlo, ci arrivo con un movimento. Con un movimento ci arrivo di sicuro, perché tu sei tipo. Siamo tutti lì. Tipo fine. Qua, quanti quadrati sono? Oh no, è stato mancato. Ah no, una volta ho preso. No, qua. Però comunque mi lasciato, vale. Con le tue abilità di movimento ci arrivi tranquillamente. Non posso fare un attacco. Però non vale il caricamento, immagino. Ma dove sei messo sul carica a volta carico? Sì, su questo braccio meccanico. Ah, e se tira giù? Cade tutto. E ti avvicini a lui? Non ti far spaventare da queste sì, giochi mentali. Sì, dipende. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ok, allora lancia l'incantesimo che aveva preparato. Sì. Tiny Wave. Vai. Ecco, mi tappo le orecchie. Vai, tappati le orecchie. Non mi ricordo mai su cos'è. Costituzione. Con il corno del montone. Hai vantaggio tra l'altro per la di costituzione. Oh, ma porca. Cioè, vai a tirare sul tavolo. Vedi che non dovevo tirarlo, 11. Vai, fallito. Cazzo, vedete il mio dado? Se lo vedi. Devo aggiungere la costituzione. Più secco, ho fatto 4. No, sarà finito sotto. No, sotto il divano. Guardi se è sotto di te. Non scorreggiare per lo sport. No, vedere non lo vedo. Neanche io. Vedo minchia, quindi. Nell'altrove. Per sotto sopra. Altrove di 11 danni e cadi al piano di sotto. In che senso? Ah! Riprova. Quindi prendi anche come faccio a cadere se c'è il carro? Vieni spinto 10 piedi. Ma come faccio a cadere se c'è il carro che occupa lo spazio del montacarri? Non ho capito. Vieni sbalzato 10 piedi da lui. Ah, non avevo capito, cadevo al piano di sotto. Sì. Cadi al piano di sotto. Da dove passo? Dal buco del montacarri. Sì, perché lui, questo è il braccio del montacarichi, lui è qua. Il montacarichi è giù. E tu? Ah, il montacarichi è giù. No, il montacarichi è il vostro piano. Quindi dove passo io? Per andare al piano di sotto. Dal buco che c'è. Un buco. Cioè, se il montacarichi è il nostro piano, non cade di un piano, un piano che è semplicemente dal che. E cadi qua. Se il montacarichi è il nostro piano, in teoria è. No, è sotto. Occupa lo spazio del. No, adesso questo è un buco. Sì, è un buco. Allora, cioè, montacarichi non è il nostro. Cioè, è un passaggio. Non è un montacarichi, sì, è più una è un braccio meccanico. Sì, ok. Allora c'è il buco. Quindi allora, ciao. Allora sì, calma. Devi tornare su. Ricomincia. E quindi prendi anche la caduta? No, perché cade sul carretto, quindi un po' di caduta se la risparmio. Non fa pietra. Che culo. Da pavimento a pavimento. Bene, dopo Garrosh. Orso. Ma tiralo giù questo, così scivo si può combattere. Spazza il braccio che va giù. Effettivamente sì. Beh, è così fragile il montacarichi? No, è una bella struttura. Devi tirare su delle botte chiaramente giù, non è una roba che ci dai un colpo di scusa, io non posso andare sul druido e spingere giù il druido. Giù. Vado sul druido che tanto scalare pozzo, 30 piedi. Pozzo, c'era nel. Spingo Robo tuo, se lo guardavi. Prova di spingere. Ti ricordi Robo tuo? Arci! Quanto hai fatto? Ho fatto uno col dado. 5. Ok. E tu? Ho fatto 14. E l'orso finisce giù. Giù. Mi cade addosso un orso. No, ma sarebbe stato bello, tipo, gli dà il calcetto sulla gamba d'appoggio e non rimane ancora. E questo perché dovrete le vostre idee di merda. Devo tranquillamente attaccarlo. Sì. Vado di strano. Vabbè, vado lì e vai lì dove lo attacco. Okay. Su un braccio meccanico con un orso che sta cercando di giusto, hai ragione. Da sopra. Da dove spassi? Hai ragione, facciamo attacco di opportunità, let's per far niente. Sì. Dici che non posso cambiare questo braccio con il. Puoi provarci, non è facilissimo perché è un. No, non fa niente. Un sistema cosa è fatto? È fatto di legno. Quindi, cioè, alla lunga si abbatte, però alla lunga. È una roba che tira su delle botti piene di vino, quindi non è proprio un fuscello. Non riesco ad arrivarci con la spada a colpirlo. Fatto no. Con questo. Se avessi una lancia, sì. Quindi l'unica sarebbe colpire gli arbusti. Hai degli arbusti che sono in fondo al corridoio. Sì, però dopo mi sparo tutti loro. A meno che tu non abbia un'arma da lancio. Sì, ho un'arma da lancio, ma è inutile. Cioè, stupido. Oppure puoi provare a saltare e cercare di aggrappare. Tu scherzi, ma domanda, se uno no! tipo scena da film, se fa la rincorsa e salta addosso a lui può buttarlo giù e cadere con lui. Hai svantaggio sicuramente. No, però è fattibile come però distanza. Fattibile. Guarda, devo uccidere questi arbusti. Dai, era figo, tu che ti lanci su di lui e te lo porti giù. C'è già l'orso. E lo combattiamo. Era figo, però. Dove un orso non può farcela, ci ho capito. Capito. 13 morti. No, tre, ah no, è vero, sono diversi dal primo con Tom. Per i danni o per vita? È morto. Morto. E di 16 il secondo attacco. Vita. Arca, li ritiro entrambi. Schifo. 6, 10 danni. Vivo. Che è devastante. Vai, ora loro si vendicano. No, tocca all'ultimo druido che arriva da dietro a questi. Come l'ultimo druido? Erano tre druidi. Ce n'è un altro. Beh, intanto ringrazia che il master ti ha spoilerato che non ce ne sono altri. Un altro, hai tornato l'ultimo. Ha detto l'ultimo, quindi io l'ho preso un po' nella prima. Ha detto ultimo, basta. Che ti lancia Entangle. Cosa fa? Cos'è sta roba? Boh, un incantesimo che non ho mai usato, però curioso di usare. Ma non hanno incantesimi seri sti due. Non ho capito, cioè siamo allo spazio. Cioè, ma daglieli tu, tanto non sai nel rispetto. Ci siamo messi di merda, cioè siamo messi malino. Reisa avrebbe aiutato. Hai sentito risata? Non c'è. Anche Giulio. Giulio sta aiutando, quello è il problema. Sta aiutando il master. Lo volete da me? Prima l'ho sentito che diceva piedi. Cata, quindi se vinciamo vinto anch'io. Io vinco sempre. Quindi se muoiono ho vinto. Aspetta, se no, voi no. Che ne approfitto. Solo 8 vezzi devi fare un tiro salvezza sulla forza. Ah, che schifo! Che sei 95? 19. Passi. Niente, lui se lo piglia. E... ok. Ho comparato il dado. Aspetta, di meno. Ah, ora tocca al primo. Quello sul braccio che ha davanti questo simpatico orso. E... niente, rifarà Thunderwave. Cosa deve fare? Cazzo, dove sono? Adesso due sono. Lui non tra i totali di due. Sì, però lui è scappato. È scappato. Vai orso, tiro salvezza sulla costituzione. Sì, che cazzo. Oh, dato che non fa uno. 18 più 3 più la costituzione dell'orso. Lo faccio. Becchi solo 3 danni. Ancora al master è scappato. È tutto qui! Questa è tutta la tua magia? Saruman! Ma se è scappato arriva l'ultimo, quindi dopo sì. Sì, questa è la frase no, che dice sì, te come gli sfa asfalti nel corso di Elmo. Sono 5. Ora uno in corpo a corpo. Quindi a svantaggio. Se tira in qui, se tira no, usa un attacco in corpo a corpo. Sì. Cioè, fa schifo, però vabbè. Meglio di niente. Ma non manca. I suoi mancano tutti. Sì, sono presi e gli altri 4 no. Sparano. Sì. 19. Morte, barbari, barbari, manca. Barbari a morte. 15 e 17, mancano. 15 lo 17 prende. Brucialo con le spine, 7. brucialo. 7 più 7, 14 danni. Quindi sono a tipo 12. Sì. Ok. Va bene. 6 di 10 contro però. Vabbè, 2 in un turno di secchi. Due parole famose. Okay. Garrosh. Rimane segato se colpisci. Garrosh, ti alzi in piedi ed è a metà del tuo movimento. Poi cosa fai? Non so esattamente come è fatta, però immagino che ci sia pavimento, parete e soffitto e poi buco. Mm-hmm. Quindi da montone non posso camminare. Ci sono delle colonne, puoi fare tipo Neo in Matrix. E... quindi ce la posso fare? Sì, con una bella prova di atletica non c'è niente. Ah, non puoi finire fare. Per il mio turno? No, però hai un'azione bonus con cui... Ma era sceso il barbaro più... Eh? I'm back, cosa vuoi che faccia? Tanto non arrivo. Scusa, salta che ci arrivi, no? No, arrivare su ci arrivo e poi tanto a colpirlo non ci arrivo. Vabbè, almeno sei su e combatti insieme a noi. No, venire su vengo, poi mi fai un'azione bonus con cui... con cui mi dai una pozione e mi fai... il tuo talento. Sceo. Per cui se vai dritto... Sceo. Il caricamento. Sceo. Esci ed entra nelle finestre. No, se faccio il caricamento e attacco, posso fare un attacco extra o ma non attacco in questo caso. Beh, non avevi il talento che ti diceva se Ah, se attacchi allora puoi usare la zona bomba. Capito. Se attacco dopo aver corso in linea retta, però in questo caso, a meno che non sia caduto in piedi prima. No, non sei caduto in piedi. Non mi hai fatto fare una prova per cadere in piedi. Non serve. Considerando che allora io torno su, io torno su, però non posso fare altro. Poi frapporti traverso loro e se riesco a salire da un lato, mi metto praticamente. Sì, esatto, di mettermi in mezzo. Spingi giù la casa dal Athletics gruppo. Faccio 18. In realtà era buono perché dopo ci combatteva Sceo e urlo, intanto noi facevamo questo. Urlo I'm back. Io ho il druido davanti. Mi sono messo fra te e gli arbusti. Oh, Vez, Raven, dove vado io su? Mi messo tra me e gli arbusti. Se no vado io sugli arbusti, dove c'è il druido? Io sono già su. E ti stanno, anzi, stanno solo messo tanto dietro, tanto dietro gli arbusti c'è un altro tu druido. Sazza questo. Allora vado sul druido. Buttalo giù. È che purtroppo non abbiamo niente. Non è che qualcosa che fa danni ad aria. Testi cazzo di animali. Adesso appena si lo sega le cose, sì. Ah, c'è primo dato. Giulio, puoi fargli danni 24. Così diventa umano. Questo per favore. Dubbio. No, così quasi non gli faccio più. Cosa dici cazzo? No, perché così non fa danni ad aria. Colpisce 12. Aspetta, ha colpito con tutte e due. Hai qualcosa che fa danni ad aria? Come si chiama questo druido? Non si chiama aria. Faccio questi. 10 più 10. No, 10 più 8. 18 danni? Sì. A un arbusto. Al druido. Veramente sembri. E poi hai un altro attacco? No, sono già detto. È un basso. Guardi sta. Ah no, aspetta, azione bonus. Uso uno slot di terzo. Per curare. Per curarmi. Niente cazzo di dare. Quanto? Non è a dare di terzo. Tanto ti sei curato? 12 danni? Si è fatto 12 danni. Allora, vai, facciami attacco. Momento, la face up è quello che ci succede quando ci curano gli ammali. Allora, porca miseria. Ho fatto 20. Critico. Sì. Però, scusate. Però in teoria questo lo facevo scuro che l'ho già attaccato. Sì, è vero che ha tipo uno di vita. che quanto ha di vita? Uno. Non eri sul druido? No. Hai vado un altro. Quanto ha questo di 11? 11 preso allora. Non tutti 11. Boom! 16 danni. Morto. Visto. Che problema c'è? Il problema è che attaccano anche loro a un certo punto. Vai. Allora, il druido che sta in fondo a questi qua ti fa. Produci fiamme in faccia. A me? Sì. Però c'è Sceo in mezzo. Controllo subito che tiro. Tu dovresti sapere che tipo di tiro fa produci fiamma. Devi semplicemente tirare. Tiro colpire. Salvezza. Ah no, un tiro per colpire. Defensa. In teoria io sono in mezzo. No, beh, sì, quindi tu da copertura leggera. Quindi hai più 2 di CA. Vai, tira basso però. Cioè io gli do copertura ma sono un nano. A te? Fai un misero. Un misero 11. Ti manca. Mancato. Yes. Oh. E sta l'altro druidos che. Ma dove finisce quella fiamma che non colpisce lui? Prende fuoco qualcosa, prende fuoco tipo tutto l'edificio. Cazzo. Davvero però, c'è una fiamma. Bruciateli, bruciare. Che ti dà un ceffone con la sua staffa. Verga. Questi tu non diventano rivali anche loro? No. Ma voglio dire, le cose va bene così. Oddio, non lo so. Era figo se diventava tipo orso che così. Sì, lo so, invece. Ci mettevamo a picchiare un orso che arrivava troppo tardi. Che era quello sbagliato. Allora. Un ceffone. Io ho la verga del vampiro. Ecco la fado. Ho la verga del vampiro. Ma anche questa fado. Può essere vero. Prova a colpirti con la staffa. Cosa guardi tu? Ma chi? Ho capito il soggetto del. Chi è che viene colpito? Fa? Io? Quello sul montacarro. Quanto fa? Stai calmo. Ti colpisce con un 18? No. Ok. Sì. Forse con un 38. No. Forse con un 48. Fa 8 danni e recupera tanti punti ferita, quanti danni hai fatto. Mi chiedo un uomo adesso. No, perché sei curato. Ah, è vero, sei curato, beh, non finirà mai. Te l'ho detto. Hai ragione, hai ragione. Ma rega, a me che ci faccio più danno da animale, perché sì, i cattesimi non è neanche segnato sulla scheda perché non voglio di guardare. Cioè, nell'altra scheda del druid. Ma vai, che ha deciso che fa lui. Tre arbusti. Vai, vai, stai. Quindi c'è Shea in mezzo. C'è Shea in mezzo, spariamo su Shea. Che è a? Ehi! Un pezzo di pane. Che sono a? 18. Ricordati che sono in ira. Stavolta un pezzo di pane. Altra volta un pezzo di mela. Riesco mai a rubare qualcosa di intero. 19? Sì, sì. 18. Ti becca solo con uno. Allora, ragazzi. Senti la tristezza nella voce quando dice. Sì, 5 danni, quindi dimezzati in 2. Garrosh. E adesso sono lì. Allora, il druido che c'è da Arci è quasi impossibile raggiungerlo. No. Cosa vuol dire? Abbiamo 26 nemici qua. Attacca questi. Vado sui. Sì, poi. Cose, va bene. Allora, lì è orso contro. Lì è orso contro tizio che tira dei ceffoni. Ho lo spazio per caricare, sì. Quindi faccio il primo incauto. Se ne fu la vita, sei mai difeso da un orso con degli schiaffi. Faccio 8 danni. Ancora in piedi. E gli faccio un attacco extra. Per 18 di dado. Vabbè, questo gli farà un botto di danni. Perché è più 7. 3 di morto. Quanti sono io di quei arbusti lì? Ne mancano 2. E Patk. Ne mancano. Ah, perché ne hai preso solo uno? Sì. Vado sul druido, continuo sul druido. 17. No, scusami, 18. 18. Ehi! Un pezzo di pane. 6, 9, 12 più 8, 20 danni. Morto. Questo. Oh! Ho fatto un po' di danni ad aria, forse! No. Ma ha rubato una spada e non sapeva tanto usarla, quindi è successo macello. Vuoi entrare o no? Ok. Ricordo, al di là di qualsiasi magia. Straccione, straccione. Ma se ho un gilet e dei pantaloni proprio come te, almeno io non li ho rubati, straccione. Le storie per un pezzo di pane. Oggi un pezzo di pane, ieri un pezzo d'angura e l'altro ieri un pezzo di pane. Tocca a te, guarda. Riesco mai a prendere qualcosa di te. Se vuoi mangiare, perché non ti trovi un lavoro? Vai, attacco il druido. Perché con la crisi nessuno mi assume. Mo se la manovra finanziaria è fatta da sultano i messo importanti incentivi per io voglio fare l'artista. Lo sapevo, non hai voglia di artista. 15 danni. Me l'ha detto il primo. Il talento deve essere uno straccione. Secondo 17. Di lavorare una per colpire, ore alla settimana prima o poi sfonderò. Sì, sfonderai a straccione. Straccione. Vai. Gli altri 15 danni. E tutti i pezzi di stracci. Che sei uno straccione, straccione. E le cose cambieranno. E le cose cambieranno, cambieranno per sempre. Esatto, per sempre. No, io intendevo per sempre nel senso che io adesso. Gli ultimi due sparano su me. Questo è tutto da vedere. Scappa, un pezzo di pane. Già, che sono già 16, no. È 17. Beh, sei 17. No, sì, 16. 16, allora uno ti becca. Che ironia. Per aver rubato sono finito in prigione. 9 danni. Siamo tutti innocenti qui dentro. No, povero. Come? 9 danni. Posto. Posto. Quanto vai? A 3. A 3. Vabbè, però adesso mi seccato. Adesso si fa. Garrosh. E poi ho ancora una. Quanti sono rimasti? 2. Ok, allora faccio il primo attacco incauto. Ma porco. Aspetta, quello è fumble, quindi voglio ritirare l'altro. Chiedi. Lo vedi? Tira. Qua. Dopo lo prendo. Un po' lungo, dentro di 20 altri che hai. Sì. cazzo. 12. Magari. Sì, 12. 13. Yes. Morto. Yes. Ok, faccio il secondo. Cazzo. 10. No. Merda, sceo. Puoi dargli d'oro o neanche al cibo? C'è cioè, un nemico, intanto ne è venuto, ci sono tutti gli altri. Druido più forte di questi stracci. Oggi faccio cadere, faccio anche dentro di tutti i pezzi di stracci, stracci. Vedi, mi ha dato giallo, verde, blu. Giallo, verde, blu. Vado io? No. In teoria non è andato di qua. Dai, Arci attacca, oppure attacco io. Chi tocca, scusami? Ah, ne manca uno, è vero. Tocca a me? Teoria sì. Appena fatto Vardistran, quindi tocca a lui. Ah, no, appena fatto io. Sì, perché loro sono attaccato. Allora vado su quell'ultimo rimasto. C'è per terra... La staffa, la prendo. Staffa. Vabbè, ma dai, no. Da orso, da orso cosa prendo? Buttala giù! Quello dopo. Effettivamente il corpo del tizio cade giù nel carretto, si sfracella, quindi è a piano sotto. Oh, la staffa del perché cade giù? Perché c'è questa cosa che si chiama gravità, che... Era penzoloni. Scusa, lui era lì in piedi, io ho tirato una non zampata. Era in piedi, era seduto. Bravo, Arci! Ci hai messo tre turni per fare quello che avessi... A attaccare quello da Bez. Fallito. Peccato. Preso. 2 di 6 più 4. Sta a sentire, certo, 12 danni. Morto. Vai, Fide, bravo. E lui era. Mi fiondo giù per prendere la staffa. Schiantandomi sul pavimento. No, spaccando la staffa. Lui era cavalcioni sul braccio. Ci sta che cade. Dai, adesso vado via. Tranquillo, così gioca Giulio. L'aspetto dell'oggetto è questo. Oh, la mia staffa. Ecco, l'avevo lasciata. Io guardo 2 di 6 porary hit points. Porary forse vorrei dire temporary. Oppure è un altro oggetto questo. È un altro oggetto, però era bello. Sì, fai della staffa. Quella che mi recca la vita. Cool. Gultia staff. Leggimi, tradutto. Tu potresti effettivamente saperlo. Fammi una conoscenza natura. Certo. Ehi, un pezzo di pane. Oh! Vedi, mi sono già qua. La... Sai che questo oggetto viene tonna se lo so costruito dai rami dell'albero di Gultias che tu sai benissimo essere un albero tra di Gultias e vai artifici sta coca zero ma stava sgasato caldo l'hai provata era sgasato già l'altra volta l'hai aperta ho provato a fare ma non ci ha creduto si è sgasato. Poi alza tieni sul termosifone apposta sotto il sole mentre quella da mai la tieni lui prima di darti la pella buca una volta ci l'ha bucata la coca tieni in forno ha bucato la coca sì una volta alla sessione di Dungeons hai preso tipo il compasso che era dentro il mio astuccio e hai bucato la bottiglia di coca no è vero e poi com'è finita? Niente che dopo era in frigo che non potevo neanche metterla orizzontale perché ci usciva la coca se no bastava mettere il buco verso l'alto. Faccio questa cosa studiata che stavo per sì, dire. Però se magari veniva rotolata per fare sposto in cosa le bottiglie vive che rotolano ho capito però metti che ne so mia madre tipo lo diceva la spostava cominciamo a perdere coca un'infanzia segnata dal disagio perché gli ho colpito la abbastanza disagevole 2 anni di analisi in terapia per questa bottiglia tecnicamente lui ci discoce un po' piene sì anche esatto beh pure ci cacciavi un buco più largo. Ti sembra normale prendere un cazzo di compasso bucare la bottiglia di coca. Ma sappiamo che se fosse normale non sarebbe l'albero di Gultias prende il nome da un leggendario vampiro che si chiamava prendere una bottiglia e spaccare le patatine scusami e... Strad no Gultias altrimenti non si chiamerebbe albero di Gultias che fece delle magie terribili e costruì una abominevole torre chiamata Torre di Gultias una zanna della notte Gultias morì quando un eroe conficcò un paletto di legno nel suo cuore ma quando il vampiro morì il suo sangue infuse il paletto con un terribile potere nel tempo le crebbero delle radici da questo paletto e infuse dell'essenza malvagia del vampiro e si dice che un druido scoprì questo paletto sì, che era ormai diventata una piantina e lo trapiantò in una grotta dove crebbe. È la storia dell'albero. Sì. Ah, purtroppo ha fatto 20, quindi sta andando a stare c'è una talea. Una cosa? Una talea. Che una cos'è talea? Una talea? Una pianta. È quando prendi un pezzo di una pianta e lo pianti nella speranza che ricresca un albero. Sì. Cioè poche piante lo fanno, ma qualcuno. E da qui quindi i semi di quest'albero cominciarono a spargersi per il mondo. E dove nasce uno di questi alberi corrompe la foresta e le piante circostanti e cominciano a spuntare gli arbusti maligni. Ah, che lindo. E questo oggetto magico fatto dalle rami di quest'albero ha quindi il potere di controllare il crea arbusti. Beh, bello in realtà. Sì. È una pagina a caso questa. Non lo so, però è interessante. Giulio. Quindi in termini di gioco come funziona? In termini di gioco sai che quando. Verga del. Perché verga del vampiro? Perché ha dato il vampiro? Ah, vampiro, e sì, ok, perché è anche era il vampiro Gigi. Gultius. Vampiro druido. Ah, la malvagità che emana dalla staffa rende le creature entro 30 piedi agitate e a disagio. Bellissimo. E, quando la staffa è rotta o è bruciata fino alle ceneri, il suo legno rilascia un terribile urlo inumano che può essere sentito fino a 300 piedi di distanza. Okay. Tutti gli arbusti che ascoltano questo urlo immediatamente avvizziscono e muoiono. Vabbè, ma finché ce l'hai in mano? Beh, richiede. Devo starci attualmente. Tuttavia. Usarlo da voi. No. Tuttavia. Vabbè, adesso se appunto, dato che siete nella zona del carretto, quindi aperta verso fuori, vedete in lontananza i vostri amici che vi hanno fatto il diversivo e adesso stanno scappando e stanno per essere soverchiati da innumerevoli arbusti. Ah, e quindi potrei distruggere la verga salvando i nostri amici oppure prenderla. Ah, beh, lui che lo vede perché noi siamo sopra. Sì. Divento druido, prendo la verga e me ne prendo. Arbusti, però può comandarlo? No. Come no? Può creare altri arbusti che combattano gli arbusti. Nemmeno, quello lo fa l'albero. Però no. La verga, tira ammazzate. La verga tira ammazzate. Se tu ti attunassi con la verga, sapresti che funziona come una mazza. No, non una mazza. Quarter staff è il bastone. E funziona come una bastone normale. Perché gli ha tirato un ceffone? No, mi ha tirato una staffata, mi ha fatto 8 danni, mi ha serreccato 8 esatto. Danni, quindi non è male. Io con questa qua vado a randellare e recupero vita. Capito? Altro che salvare quei 4 stronzi. Gli stronzi ti vedono da fuori e dicono aiutaci. Vabbè, tanto nella staffa non posso. Io sono sopra, cosa sta succedendo? La staffa, gli devo fare un'ora di. Ma lui orso non capisce. No, sono tornato druido per prendere la staffa. Sì, prima che me la rubino questi. Vabbè, bastava che ti ci sdraiassi sopra, metti così tra le zampe. Quanto vale questa staffa? Questo fatto vendi su conoscenza. In termini monetari? Sì. Neanche troppo, in realtà è rara. Quindi? Qualche centinaio di monete d'oro. Ma sei un druido! Considera che io giro con 13 monete d'oro. Ma sei un druido! Hai un bambino. Che cazzo te ne frega? No, vabbè, la vorrei usare, è figa come staffa, rega. Però è bella, un oggetto malvagio. Vabbè, ma non è che dice. Cosa vuol dire? Anche lui è malvagio. Ah, no, non ha fatto giuramento strano. Vabbè, allora non divento. Allora non divento orso, cioè non divento druido e spacco la staffa. Come infrangi i ramoscelli. Perché? Parte questo perché non vedi che voleva umano. Che facesse questa cosa, ma tu non tutte devi fare quello che vuole cazzo. Tutte le piante della vigna che assaltavano la povera famiglia, poi cazzo che malvagio, no, per 30 piedi dopo tutti i piedi. Aspetta, ferma forse livelliamo, forse sì. Livelliamo, zitto aspetta, per prima di livellare per livellarlo poi li aspetto adesso. Occhio non vede, paladino non vuole, questo è sempre la staffa fine a 40 metri. Vuoi sapere la più grande ironia di tutte? Che sale anche sono a disagio, agitati. Vuoi sapere questo? Si sveglia tipo con dei cazzi al posto delle mani. È vero, è bellissima la scena. Lui lo spezza, parte quest'urlo e poi stacco il primo piano di Giulio e fa e si sveglia contento. E Giulio con un cazzo così qua. Che devo vedere cazzo in faccia? Devi spostare delle parti del corpo. Una proboscide. Non esattamente. Me l'ha tolta. Hai un attacco di multi-attack adesso, Giulia. È cazzata. Che può essere. Che può essere. No, io avrei detto: occhio non vede, paladino non duole. Pezzi, ma non aree di malvagità. È che voi avete cominciato a farmi vedere le cose. Cosa ha fatto? Sta rompendo un oggetto. Infatti io qua non vedevo, quindi io non so che questi sono, quindi lui può fare quello che vuole. In realtà fatto lui può fare comunque quello che vuole, però io non sono tenuto a rompergli il cazzo perché non vedo. Dolori. No, però se lui vuole un po' da vedere, allora aiutaci! Intanto i punti ferita. La verga. La porta e fa con la porta. Sì, stavo per dire, sarete di livello, ma avete preferito fare altre cose qui. Ti ho detto che li vegliamo, tu gli hai detto aspetta mentre stavo per dire che hai detto aspetta. Lasciateli giocare, come sono messo. Lasciateli livellare. È buio, sei sdraiato, dite questo sta su. Ti hai appoggiato a del legno. Facciamo il livello, scusa. Senti, di getto mi metto seduto. Tanto non mi cambia, anzi no. No, ok, cioè nel senso... Sei una cazzo. Sull'animale totemico, quindi è una cazzo. Mi faccio un livello da barbaro. E un qualcosa sul un oggetto sul tuo petto. Posso bloccarvi solo per una parentesi, così io stacco e poi me ne vado. L'unica cosa ti anticipo, il mio prossimo livello prenderò una cosa nuova relativa all'animale totemico, quindi in realtà o la studiamo insieme, scrivimi qualcosa se hai delle idee, se no oppure faccio delle proposte, perché in realtà dici che puoi scegliere anche un altro animale. Sì, esatto. Ma vuol dire che tengo entrambi o che lo cambio? No, tieni entrambi. Quindi posso prendere l'abilità di un'altra cosa, magari cerco qualcosa di... cioè non un'aquila che è troppo disperata, compagna, quello che potrebbe anche stare. Insomma adesso vedo cosa... Puoi scegliere anche un cammello per quel che mi ricordo. Ma quindi me la posso inventare di sana pianta, qualcosa di plausibile, non troppo... Oh. Sì, guarda lì... Ora provo a fare di protezione, quindi tutte le volte che una creatura amichevole di sfidare, deve fare un tiro salvezza, avrà il mio bonus di carisma. E qui fate l'esempio. Mi dispiace, Giulio. Non sono amichevole nei tuoi confronti, bravo. Mi fa 3 esempi, anzi, Stronzetti. Comunque sono entrato in quando c'è quella cosa dei sogni tipo Inception, però entrano nel sogno che vogliono far cambiare il voto al maestro. C'è Freddy Krueger che chiama stronzetti. Ma anche l'ho visto in inglese, quindi stronzetti. E poi sono le primissime. Stronzetti comunque è tipo in inglese. Tipo la seconda puntata. Sicuramente dice stronzetti anche in inglese. È tipo la seconda puntata. Cos'è? È tipo la seconda puntata. C'è una cosa sul testo. C'è di scatolina. Tasto sta scatolina. Sì, esatto, è una delle prime. Questi giorni l'ho cominciato anche dentro c'è qualcosa che si muove. Che merda, non faccio mai un tiro alto. Vabbè, non ci vedo però, quindi passo tutta la prossima. Gomma? Provo a sfondare la cassa. Tiro della batita. Della tua batita? Ma non cancello un cazzo. Dai, sì che cancello. Dalla faccia di giù. Non hai una gomma? 8 più... Bene, nel frattempo io saluto... 14. Ok. Ciao, Sceo! La diretta. Batti contro il coperchio. E a 7 ore mi sveglio per andare in pale, sono bravo. Mentre batti un pochino, vedi che non riesci ad aprirla, però un pochino di spiragli di luce passano dalle fessure mentre spingi e ti accorgi che con la pochissima luce che passa riesci a vedere molto meglio rispetto a prima nell'oscurità, quindi hai scuro visione. Visione. I miei buff. Mi prendo un cazzo il 6. Allora, l'incantesimo di quarto. No. Io ho passato settimane con un albero di noce che mi cresceva in fronte. Ma era io, ma master. Sì, queste settimane solo perché non ci siamo visti per settimane. In realtà. E poi cioè, la perdita lì, quindi è, se vogliamo, tutta una vita. Sì, è vero, ma ce l'ha ancora. Sono 10 anni, non hai quella. Quanti piedi? Vabbè, cioè 60. Sarà bene. Saluto ragazzi. Ciao. Ciao Sceo. E rimaniamo per martedì se non va niente. Sì. Ce l'ho. Penso di sì. Vabbè. Ok, ciao. Nella. A questo punto, prima di provare a sfondare di nuovo la cosa, cerco di vedere cosa c'è nella scatola. Cioè, me la porto, cerco di portarmela vicino e capire cosa. Ah, c'è la scatola? Allora, una scatola sul petto. E sono dentro una cassa, tipo una bara. E c'è il cuore. La apri e dentro c'è il pipistrellino di sal. Ok, cosa ci fa il pipistrellino di sal? Cioè, ok. Domanda sbagliata. È morto. Visto che non so come comunicarci. Lo ammazza. No, niente. Il pipistrellino. L'ha cucito su Giulio il pipistrellino. lo tolgo dalla cassa. Ha due biglietti con sé. Li leggo. Non c'è abbastanza luce. Ok, a sfondo. Non corretto. A scuro video. Non è abbastanza per leggere dei biglietti. La scorvisione non è luce che posso, cioè è un po' come funziona. Sì, in realtà vedo in bianco e nero, 60 piedi, come se fosse. Le scritte sono troppo sbiadite. Come se fosse luce fioca. Quindi magari se non riesco a leggere luce fioca. Fioca, fioca. E continuo a provare a sfondare sta cazzo di. Colpi di strada. Ah, adesso le creature di livello 2 io. Mi chiede qualcosa. Boh! 24. La luce che. Magari mi accecca anche per un attimo. Esatto. No, un attimo sbagliato. Sicuramente. E capire, devi adattarti un pochino alla luminosità. E nel momento in cui questa però il primo effetto passa, senti. Ah, l'alce gigante. È come se sentissi molto meglio i suoni e anche gli odori, e per cui hai vantaggio alle prove di perception che si basano sull'udito e sull'olfatto. Ah, anche se il pentestatore gigante. Fai un bel respiro mentre ti guardi intorno. Sei praticamente in questo campo, vedi in lontananza la città e di fatto è un cimitero. È più un luogo quelli. Dove si. Quindi sono fuori dalla città. Sei fuori dalla città. E ma. L'aria entra nei tuoi polmoni e un po' ti brucia, come se gli stessi respirando per la prima volta. E niente, faccio qualche respiro e guardo un attimo intorno per vedere se il mio equipaggiamento è lì, non c'è più. Sì, ai tuoi piedi c'è una sacca con le tue cose. A livello fisico cosa di che quantificazione hai adesso? Adesso scopriamo. Sì. Immagino di avere degli occhi tipo lupo. O gatto, non so, dipende. Poi vabbè, sta cosa del vantaggio a percezione sul dito, il fatto. No, puoi provare tipo a toccarti la faccia. O sì, tocchiamoci. Tipo. Allora, cosa ti tocchi? Le orecchie, gli occhi, il naso. Le orecchie sono lunghe, appuntite e pelose. Gli occhi sono molto grandi e tondi. Vederti meglio. Che cos'è? Ah, il dado vita. Aspettati questo. Medio. Sfiga. Anch'io ho tutto con la sfiga di merda. Quindi cos'è? 5? 10? Il muso è allungato. 6. Con delle zanne come fosse quello di un cane. Bene, usare 10? No? Sì. 6 più. Poi cos'altro ti tocchi? 60. Vabbè, mi guardo i piedi, sono normali. I piedi, il resto è normale. Sì. Boh, mi tocco il collo e le braccia. Sono come dei solchi qui e qui. Branchie? Sì. Esatto, tipo un figlio. Pesciolone! Puoi respirare aria e acqua. Merda, Giulio! Ma è stato bagatissimo. A parte che ho la faccia tipo di Anubis, però ok. Sì. La costituzione quando c'è? Sì. Ah, minchia, ma gli ha cambiato la faccia, gli ha tolto la faccia. Sì. E i polmoni. Casino. Ma bello malato. Abbastanza. Io ora che so li comincio a andare verso. Tanto... Tu vieni là con me o... Finiamo questa cosa di giù, quindi. Dai, se non ti offendi ti lascio andare. Solo in un soletto. Se no aspetta qualche minuto e finiamo. Sai, qualche minuto aspetto. Sì, sì, è la descrizione di che cosa gli è capitato. La tua parte preferita. Siediti, ti faccio. Il resto è normale, spalle. Sì, il resto del corpo è normale. Principalmente si vede che gli servivano dei pezzi da... Cioè io l'ho aperto in due e gli serviva la faccia, però no. Dobbiamo un attimo... Ha preso anche i polmoni, quindi evidentemente... Dobbiamo un attimo parlare di anatomia con questa persona. Evidentemente, magari il resto è riuscito a ripararlo con dei pezzi di ricambio. Magari che i polmoni gli ha fatto una faccia nuova, con la pleura. Purtroppo non hai fatto 10, sarebbe stato divertente. Cosa era adesso? Le ali. Sì, cos'è? Allora mi faccio sottoporre anche io sta cosa qua. Infatti, lui ve l'ha proposto. Siete voi avete detto, ah no, che brutto. Sì, invece, vedi come sono i suoi amici come sono contenti. Provo a parlare, parlo normalmente. No, i suoni sono. Parli, riesci a parlare in comune, ma i suoni ti vengono fuori come. Celestiale. Vabbè, guarda, quello che. Le parole che dici sono un po', diciamo, storpiate da. La tua nuova bocca, e quindi quando parlerai e quindi quando parlerai ricordati che appunto vengono, è come se fosse come parlava Otto. Sì, ma Otto era uno sfigato idiota e ansimava. Però la noti che hai la... E io ad esempio non sono un cane che deve... Il gruppo, il coso al casetto... Che come Otto che deve respirare con la bocca fuori, oppure le branchie, sono 25 sistemi diversi di respirazione. Soprattutto di sudorazione. E ti accorgi che c'è un uccellino che cinguetta e il suono che ascolti poi... Provi a cinguettarli indietro e riesci ad imitare come se... Questo ce l'hanno tutti i mongrel. Puoi imitare i suoni che... imitare i suoni che senti, incluse le voci. E... Allora mentre mi rimetto l'armatura, mi rivesto. C'è anche un mantello con cappuccio che sono simili a quelli che avevano i due mongrel che avete conosciuto. Posso immaginarmi come mi pare? Cioè posso davvero pensare che è tipo Anubi? Beh, sicuramente il muso è quello. Gli occhi però sono più da palla. Sì, tipo il lemure. Quelli che fanno gli occhioni. Cazzo che schifo. Però è oggettivamente riconoscibile. Ni, cioè c'ha una faccia di un animale. Oggettivamente è irriconoscibile. Ah sì, avevo capito, irriconoscibile. Cioè, quindi in teoria noi non ha neanche più la voce di Giulio, quindi come cazzo vedi facciamo a sapere che è Giulio? Hai i suoi vestiti. Cioè, l'unico è il pipistrello. E c'è è vero, c'è il pipistrello con te che ha il messaggio che aveva scritto Salla, che non mi ricordo. Però anche lui come scritto. Adesso non è l'ora di dire, è un mostro. Esatto. No, ovvio. Sono Giulio, ha ucciso il nostro amico. Sono io, aspettate. Ho rompito anche il pipistrello. Ammazziamolo. Beh, in realtà sì. Il pipistrello ha il messaggio di Salla, che non mi ricordo cosa c'era scritto, e un altro firmato da... Bayern. No. Cosa dice? Fai la tua manovra. Esatto. Io sono riuscito a farti riprendere da, dall'intervento, eri messo molto male e ho fatto in modo di, come si dice, far sgattaiolare il tuo corpo fuori dal villaggio, perché la situazione, cioè, in realtà è una grande opportunità per Giulio, penso che lui alla fine si può presentare a noi come chiunque. Quindi avere così una fiducia maggiore di quanto non avrebbe fatto. Ricominciare da zero. Vabbè, cioè, comunque ho la faccia di un cane sostanzialmente. Ha detto, è arrivato l'amichetto di Salla, che non mi ricordo come si chiama. Qualcosa del genere. Racebat. Racebat, con questo messaggio. Butt. Sì. E sembra che ti, che siano diretti alla vigna sud. Senti l'odore, annusi il pipistrello e il messaggio e riconosci gli odori dei proprietari. Okay. Allora guardo la città, vabbè, in lontananza, diciamo. In teoria con... esatto. Poi non so, con gli occhi a palla quanto minaccioso sia il mio sguardo. E mi dirigo verso la vigna. Va bene. Perché scusa, ha la faccia di un cane e gli occhi da lemure. Sì. Beh, bello gli occhi da lemure. Potevano essere degli occhi più sensati. È venuto in mente solo quello. Figli. Ma come? Con tutti gli animali che vedono nel buio ti è venuto in mente solo il lemure? Beh, è una gran roba invece. Tanta roba. Un procio. Cioè, cazzo, che molto cattivi in realtà, guarda. Perché guarda cattivi. Bisogna immaginarli una faccia di un cane. È che tu hai gli occhi. Vabbè. No, in realtà sì, non è molto diverso. Cioè, delle due si direbbe più il cane. Il cane dipende che cane è. Sì. Che cane posso è. Scemo? No, pensavo più al lupo che a un cane, in realtà. Sì. Vabbè. Vabbè, ora ci sta. Beh, vabbè, gli occhi del lemure non sono così diversi da quelli del lupo alla fine. Solo di colore. Cioè, quindi io tipo sono, ho la pelle normale, qui è tipo, ho le branchie. Sei un lupo con le branchie. E qua ho la faccia pelosa da lupo. Esatto. Non sarai assolutamente distinguibile. Sarà sicuramente un problema questa cosa. È stato quello con la faccia da lupo. Poteva essere chiunque. No, non riesco neanche più a parlare. Dai, potevi fargli la faccia da anatra, il becco da anatra. Per il becco non credo che le anatre siano particolarmente abili con l'olfatto. Non è importante. Il gusto. Cosa c'entra? Ah, perché ti veniva la caratteristica e sceglivi tu. Sì. Quindi veniva movimenti da rana, tipo il naso da formichiere, era dominante. Dominante. Vabbè, la bocca del formichiere, però, quella che è la bocca, è lunga. Sì, è il naso non ce l'ha. Ti dicevo, insieme alle tue cose c'è questo mantello con cappuccio che di solito loro usano per passare inosservati, e quando lo fanno, finché non sono notati, i mongrel hanno vantaggio alle prove di stealth fatte per nascondersi. Ne ho un mantello. Ma non ha avuto nessuno svantaggio? No, nessuno svantaggio. A parte le modifiche estetiche. Minchia, quindi in realtà sei molto più forte. Ma infatti sono tutti contenti. I Bellevue di essere. Quindi ho vantaggio le prove nasconde. Ci sono un po' dei Unistage, ci sono un po' dei power player. Sì, esatto. Esattamente. Non avrei saputo dirlo prima. Beh, però non sono anche molto ritardati in realtà. Chi, Giulio? Sì, è vero, infatti questa cosa vedremo di. Anche Giulio dovrebbe essere un po' ritardato. Magari no, i figli sono ritardati, quelli originali non erano ritardati. Non so. Tu un po' ritardato, no, anche quelli originali hanno qualche problema. Sarebbe un meno due all'intelligenza. Vedremo di. Vabbè, cambia. No, mi cambia, è una no, no, ci sono proprio. Potresti negare meno 4 la costituzione da me. Scusa, non ti cambia. Mi cambia il personaggio. Ho capito, l'ho messo 12 intelligenza apposta. Appunto, dove è a 10, beh. No, ma ci sono proprio. Meno 4 la costituzione, no? come si dice, gli stati mentali alterati, che adesso in privato vedremo. Il mio personaggio sta già sclerando. Niente, basta. Non è normale. Arriviamo Giulio, fa buonasera, signore. Che piacevole giornata. Rivediamo davanti un bambino, non lo ammazza. Che strano. Ma... No, ho uno stato mentale alterato, arrestato. Giulio, ma non ti viene voglia di dar fuoco a qualcosa? No. Anzi, sarebbe un vero peccato rovinare questo. Oh mio Dio, è impostore! Va bene, avete visto la versione anni 90? Cosa? Ah, no, l'immagine. Di Tycoons and Dragons, la versione di carta, episodio 21. Siamo incredibilmente sentiti, vivendo. Oh. E Giulio è diventato un mostro. Ah, no, no, era già va bene, quindi io... Però adesso anche esteticamente. È un quesito, scoprite chi è il vero mostro a Barovia. Chi è brutto dentro, chi è brutto a vedere. A presto. Adesso è perfetto, sei veramente un mostro che ci rimo. Quasi. Non è neanche